Mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma tua. Chi l'ha detto? Mario, ma scusami un attimo, perché, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma la che gente. C'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma siete che droga? Ma quali? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Ero in sala d'attesa del mio medico, c'è la filodiffusione con Radio 24, la zanzara. A un certo punto una signora si alza e dice: ma non si può cambiare stazione? Cambiare stazione? Ma vaffanculo, la zanzara è il male necessario, vecchia, vecchia, vecchia, vecchia. È il male necessario, vecchia, vecchia. Lorenzo, un giorno per i cogliona questo rom. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Parenzo, tu ogni tanto vai in piscina? In piscina sì, mi può capitare, sì, d'estate, d'inverno non vado quasi mai, però sì, mi può capitare, certo. Allora, secondo un pregiato, secondo me finto, studio, come tutti questi studi che vengono diffusi ogni tanto, sì, e le radio li fanno propri, no? Bisognerebbe fare un mix ogni tanto di tutti quanti gli studi che vengono citati in tutte le radio italiane, una cosa ridicola. Bello, tutti quanti, è stato fatto uno studio, ma sono tutte puttanate. Buono, comunque, idea. Diamo per buona questa roba qui, no? Che in Canada, un'università, l'università di Alberta. Alberta. L'università di Alberta, improvvisamente spunta fuori lo studio dell'università di Alberta. Perché ci dovrebbe interessare lo studio, sì, dell'università di Alberta? Ma dillo come lo dici tu, l'università di Alberta. Sì. Dillo come lo dici tu quando vuoi pigliare evidentemente per i fondelli qualcuno. Esatto. Eh? Sì. Dai, l'università di Alberta in Canada dice che orinare nelle piscine pubbliche è un'abitudine, sì, diffusa, cosa che peraltro noi già conosciamo. Non ci serviva l'università di Alberta. Esatto, non ci serviva per sapere. Bastava ascoltare la zanzara. Ma non solo ascoltare la zanzara. Da quando esistono le piscine, esiste, sì, anche gente che piscia dentro le piscine, sì, purtroppo, sì, dico io, sì, purtroppo. Adesso non dire proprio tu dici pisciare, ecco, no, dentro, appunto, le piscine, stavo per dirlo, no, appunto, perché dico, sotto la doccia a casa propria è una cosa, nella piscina dove va niente, io per esempio non mi permetterei mai, il lavandino va bene, anche il lavandino pubblico, come dire, potrebbe andare bene, perché comunque il lavandino pubblico viene sciacquato, ma la piscina dove nello stesso momento ci sono altre persone, questo no. Comunque, fino a 75 litri di pipì in una piscina, caro Parenzo. No. Dunque, la prossima volta c'è che cloro, tu... però deve esserci. Sì, la prossima volta fai una telefonata all'Università di Alberta che va in piscina e ti accerti che questa cosa sia vera. Speri che ti risponda qualcuno dall'altra parte. Cioè, scusi, appena... e poi ti butti in piscina. Ah, che pisciata! Non so se hai notato negli ma scusa, ma quello che fa il cane che ha abbaiato, dov'è intanto? Quello è il numero uno, dopo mandiamo, dopo mandiamo uno speciale. Sono molto depresso oggi, rimettimelo un attimo. Il cane. Giusto per dire al nostro direttore Roberto Napoletano, caro direttore del Sole, senti chi chiama nella radio che tu dirigi. Lo sa benissimo. Voglio che lui risenta Napoletano, il direttore del Sole, voglio che senta. Senti. Ti rendi conto? Ma tu ti rendi oggi conto? È venuto qua in visita pastorale, peraltro. In visita pastorale. Che ha detto? Visita che ha detto? Fate presto, fate presto, fate presto. Che ha detto? Fate presto, fate presto. Fate presto. Sta trasmissione la porcheria. Sta trasmissione, cosa dico? La porcheria. Sta trasmissione, la moderata. Sta parolacce. Sta la porcheria. era con il grande. No, è bello quando all'inizio fate questa cosa con le musichette, le cose, è bello la parte politica che fa. Porcherie, le cose, non sai, ma perché pisciare la mattina, che roba, ma come la fa? Parla esattamente così. No, la maggior parte delle volte non si capisce. No, scusi. Questo non è vero. Scusi, direttore, questo che sta dicendo? Lo potrebbe fare lo spelling. La porcheria, la porcheria. Va bene quando fate le cose. Va bene la musica, inizia le cose, notizie, quando date le cose, no, ma queste porcherie sempre, perché? Tu dice, ma quali? Quali? No, ma ha ragione, nel merito ha perfettamente ragione, perché è una porca, è una trasmissione, dai, chiudiamo, perché non ha se basta, però... basta, non puoi, oltre questa volgarità che hai introdotto, non si può andare oltre, veramente, basta. Allora, ragazzi, fatemi riacquistare un minimo di cosa. Allora, negli ultimi giorni abbiamo assistito a quali fenomeni? Fenomeni di VIP o presunti tali che protestano perché a casa propria o di parenti sono avvenute rapine in villa. Vabbè. Questi VIP comunicano urbi e torbi. Alla comunità nazionale. Un fenomeno che, di cui non ci eravamo resi conto. È un fenomeno del tutto nuovo, del tutto originale. Le rapine nelle case, la paura e il terrore sono cose di cui effettivamente non avevamo percezione prima dell'intervento dei coniugi Celentano, prima dell'intervento del DJ Facchinetti, che peraltro non ha nessuna responsabilità perché hanno rubato a casa di un suo parente, del padre, e ha detto che vuole costituire un arsenale, anzi è imminente l'acquisto di un arsenale per sparare al ladro che entra dentro casa tua dove ci sono i figli. Va tutto bene, per carità, però se le stesse cose le avesse dette un Salvini, un siciliano, ve lo ricordate quello che sparò ed ammazzò il ladro? Le avesse detto un poveraccio qualsiasi che magari senza utilizzare le parole alte, le parole pompose della signora Mori, eccetera, sparava con la doppietta, no, all'albanese o all'italiano. No, un conto è farlo, un conto è dire, veniva, guarda, accusato di essere uno sporco razzista, ma schifoso. No, ma è diverso. Sì, ma... uno che fomentava la paura, ma eccetera. No, ma perché invece fai adesso, confusione? Aspetta, invece adesso si apre un dibattito, perché questi signori qui ci ricordano dall'alto delle loro ville sontuose. Per carità, va benissimo che abbiano le ville sontuose, ci ricordano che cosa questi signori? Che esiste un problema della sicurezza importante in Italia. È questo che mi fa impazzire. È questo che mi fa impazzire. In Italia esiste il problema della sicurezza. Grazie, signora Claudia Mori, per cui ho un grande rispetto. Lo sapevamo già. Lo sapevamo, senza bisogno che lei... Ma lei ha subito una cosa, ma violenta, non ha subito niente, tra l'altro, qualche signore che è entrato, beh, paura, signore, per carità, ma insomma, che discorsi, per carità, sono? Dai, comunque sentiamo, non si sente bene, però con la voce preoccupata. Ma ha ragione, viene intervistata, ma scusa, da Mediaset per dire, beh, abbiamo paura, cioè, ma la legittimo. Sicurezza è un problema importante per tutti gli italiani. Grazie, signora Mori. Ma anche lei è una testimonianza di quello che ha subito. Grazie, non lo sapevamo, grazie. Facchinetti, sì, ha detto che ha reagito in quella maniera, perché forse anch'io reagirei così, perché bisogna trovarci nelle situazioni prima di dire certe stupidaggini che ogni tanto si sentono dalle voci di chi dovrebbe invece avere la responsabilità della sicurezza della gente. Dice anche che non riesce a dormire la notte perché vede degli intrusi. Beh, questo è un problema. Questo è un problema degli italiani molto grave. Perché prendi in giro è lei un problema degli italiani non... molto molto ma grave. Ma non ho capito perché prendi in dai, giro lei. Ragazzi. Cioè, su questo sia i VIP che la gente normale possono vivere la stessa paura, no? Perché allora rispetto al populismo che tu dai, ogni volta porti in questa dai, trasmissione, quando un poveraccio subisce dai, un'intrusione non ci scherzi sopra il suo dai, malessere. Però. No, dai, ma non niente, mi fanno incazzare queste persone, anche se uno che dice invece, no, su questa non riesca paura a dormire la notte. Della signora Mori ci scherzi, non si capisce perché. No, usa lo stesso metro di giudizio. È, no? che quando parlano questi e tutti quanti ad ascoltare, ad avviare un discorso pensoso, un dibattito importante, quando parla un poveraccio che viene minacciato, vero, invece è un bruto. Ma non è vero, che semplificazione. Senti, proprio che la signora tipica. Mori Senti che la moglie di Celentano non riesce a dormire. Da falso populista trampiano che sei, proprio il classico argomento da falso populista trampiano. È importante questo, trampiano. senti questa cosa, è importante. Populista Fram italiano molto grave in queste ore, la signora Mori non riesce a dormire. Ricordiamo che dopo l'episodio che ha gli episodi delle settimane scorse che hanno visto protagonisti proprio i Celentano e la moglie, o meglio la proprietà privata dei due personaggi, Claudia Mori non riesce a dormire. Beh, è una comunicazione molto molto importante, devo dire che attanaglia l'Italia. L'Italia è preoccupata, Claudia Mori non riesce a dormire. Questi cazzi. Però hai ragione tu. Le preoccupazioni e la paura anche di una famiglia Mori sono uguali a quelle di un operaio, sono uguali a quelle di un siciliano, sono uguali a quelle di un contadino qualsiasi che viene minacciato nei suoi averi. Non bisogna pigliare troppo per il culo queste cose. A me dà fastidio che cosa? Dà fastidio che i due pesi e due misure. Mentre alcuni vengono considerati, se dicono bisogna sparare senza problemi, dei pistolero, vengono considerati dei razzisti, delle persone che vogliono introdurre il Far West in Italia, quando invece Facchinetti dice che bisogna comprare un arsenale, che lui comprerà un arsenale e l'altra gli dà ragione, in questi casi si avvia un dibattito pacato sulle armi in Italia. Beh, la sicurezza in Italia è una cosa da considerare. Vergogna! Ed ora Donald Traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Parenzo, ma va a scassarci la minchia, tale. Hai capito questa cosa in siciliano o no? Sì, io. Parenzo, ma va a scassarci la minchia, tale. Allora, tutta Napoli insorge contro il titolo di Libero, piagnisteo napoletano. Ah, frega niente. Scusi Feltra, a lei interessa questo, il fatto che la città di... Me frega niente, basta vedere le coppe, vado a mangiare, me ne frega niente, me ne fotto completamente, me ne frego. Bracco. Beh, però a Napoli sono incazzati, Me ne frega un cazzo, ma proprio niente me ne frega, niente. Domani facciamo un altro titolo, basta. Ho capito che titolo. Ma normale, un titolo normale, vedi Napoli e poi muori, basta, normale. Beh, però i napoletani sono arrabbiati, addirittura in qualche edicola non hanno voluto. Me ne frega niente, ma mi invitate qua a parlare di che cosa? Me ne frega, o mi fate parlare, oppure non me ne frega niente, sono qua a fumare le mie sigarette, me ne frega niente di quello che dite, niente. Mi interrompi di continuo, mi rompi le palle, non mi pagate neanche per intervenire a sta trasmissione, me ne frega niente, ho altro da fare, un titolo ad esempio. Qua con gli islamici occupano Piazza Duomo. Fatto, ma non è vero, sì, è successo. Ma se dite di no, ma venite a vedere voi allora con l'immigrazione a Milano. Me ne frega niente di quello che dite. Dove va a cena stasera, direttore? Ah, Baglioni, ma al solito, me ne frega niente, ne a mangiare, ovvio, dai. Per me i coglioni con voi. Allora, voglio segnalarvi che il re Salman dell'Arabia Saudita è andato in viaggio. Brava persona, sta anche uno stato canaglia di infami, di infami, uno stato di infami. Il re Salman dell'Arabia Saudita è un personaggio abietto. Diciamo la verità, un personaggio abietto. Che un personaggio fatto, abietto. Cosa ha fatto? Che ha fatto il re? Scusa. Il re dell'Arabia Saudita. Il capo re dell'Arabia Saudita. È uno stato canaglia che tratta le donne in maniera vergognosa. È giusto, non ci sono interessi italiani all'Arabia Saudita. È giusto, mettiamocelo contro anche lui. È uno stato canaglia che dovrebbe essere bandito da tutto il mondo. L'ho detto più volte e lo ripeto. L'Arabia Saudita. Mettiamocelo contro anche lui. Ma è giusto, questa trasmissione non ha già abbastanza nemici. Allora, tu pensa, è andato in Indonesia in viaggio di Stato su un aereo privato placcato d'oro. Sì, un aereo. Ha toccato il suolo con una scala mobile. dire, cioè non bastano le scalette, ottimo, per non camminare. Sì, non avevo voglia di camminare, meraviglioso. Ma chi te ne frega? Ma sono soldi tuoi, ma non ho capito. Aspetta, ha portato 506 tonnellate di roba con sé dentro l'aereo. Sì, c'erano due limousine Mercedes. Due, certo, dico, bellissimo, meraviglioso. Due ascensori elettrici. Sì, cazzo servono? Perché? Non lo so. Vabbè. Due ascensori. Sì, quando non vuole rompersi i coglioni a salire. Ma certo, cioè, ma a salire le scale. Non frega niente a lui, è giusto, ha ragione. Uno staff di 1500 persone. Ottimo. Sì. Ma dov'è il problema? Aspetta, 10 ministri, 25 10. Principi. Ma poi di cazzo ne fa dei ministri? Comanda lui. Che so, cazzo ne frega di aver ministri? Vabbè, lui fa parlare ogni tanto. Sì, ogni tanto fa 25 qualcosa. Principi, sì. E un 100 agenti di scorta. Circa 100 sì. agenti di scorta. Boh, ottimo. E durante il tragitto. No, mi piace molto l'idea della scala mobile. Quello mi piace moltissimo. Fa un po' impazzire quello. Cioè, l'idea che lui non possa scendere quelle quante saranno? 30 scalini. Quanti sì, saranno? Sì, non meno, 40. Meno, meno, 10. Non lo 15, so, facciamo 10. Facciamo che l'aereo è altissimo. Saranno 30 scalini. Sì, 30 scalini. No, scala mobile, beh, quello è meraviglioso. In sette gli tenevano l'ombrello per proteggerlo dalla pioggia. In quanti? Sette. Beh, sette. Vabbè, amico mio, ma di cosa parliamo? Ma la tua è invidia sociale, scusa, non ho capito. Senti, le statue nude del cazzo di Bogor lì a Giacarta sono state coperte perché evidentemente le orge questo quale fa dentro l'aereo, cioè non può vedere le statue nude, i pompini se li fa fare di nascosto. Sì, le statue nude però lungo il tragitto non si devono vedere da parte del re dell'Arabia Saudita. Sì. 150 chef arruolati per la festa in suo onore. 150 chef. La più grande moschea costruita. Dentro la moschea è stato costruito un bagno di lusso solo per lui. Okay. Io se fossi un fedele che va in moschea sapendo che questo gli hanno costruito un bagno di lusso dentro, ma perché il bagno, dice, non vuole mischiarsi al bagno della moschea, dice, no? non vuole mischiarsi alla plebe. Ci abbiamo qui in collegamento Sallusti, il direttore del giornale. Sì, sì, che dice? Pronto? Sì, buonasera, ho fatto il titolo, la foto del re, ecco l'amico di Renzi. Ma che c'è tra virgolette? L'amico di Renzi, questo arabo del cazzo che costruisce la principale Arabia Saudita. Abbiamo messo in prima pagina la foto di Renzi e la foto del re che scende dall'aereo. Ecco la sinistra che piace a Renzi. Ma non è vero, è amico di tutti i governanti. Abbiamo fatto il titolo intanto, chi se ne frega. Claudio da Piacenza, vai Claudio, vai. Claudio. Che c'è, niente, Viorel Bergamo, che è uno Viorel, vabbè, Viorel, avanti. E che ti dà fastidio se mi chiama Viorel, è il mio nome. No, per carità, no. Viorel, va bene, Viorel, che nome è? Che è romeno? Romeno, cos'è? Del nord, mi raccomando. Del nord di dove? Dell'Ungheria? Della Romania? No, Casera, ammazza, che geografia stai. Del nord di che, Viorel? È vicino all'Ucraina. Vicino all'Ucraina, che c'è vicino all'Ucraina? Perché te devo insegnare la geografia, uno come te. Allora, Viorel, passo subito dunque perché te mi fai perdere tempo, perché sto lavorando, non c'ho tempo da perdere. Allora, due punti veloci, prima di tutto, perché Viorel, sono vent'anni che vivo in Italia, qualcosa ne avrò capito di sto paese, no? Però, no, amico mio, te lo dico bello, schiatto, diretto, te stai facendo una propaganda delle forze oscure alla grande in questo paese. La propaganda veramente delle forze oscure, Viorel. Ma tu sei ucraino? Ucraino? Ma che è ucraino? Se ti dico che sono rumeno. Ah, rumeno, e che ne so io, romeno, va bene, dai, forza. Romeno. Allora, sto facendo la propaganda delle forze oscure. Rumeno, non romeno, rumeno, R-U. Ma quali sono ste forze oscure per cui stai facendo propaganda? Ma tutto ciò che è bene lo chiami il male, tutto ciò che è male lo chiami bene. È arrivato un altro Cristo secondo questo. È arrivato. Vai, Viorel, la prima cosa è questa, la seconda cosa qual è? Così non devi perdere tempo, no? Che era. Vabbè, se parli te allora è un perché ti ho chiamato. Vai, dimmi Viorel, dimmi. Allora, prima di tutto quel bosniaco, perché sono un cristiano evangelista e qualcosa ne so. Prima di tutto quel bosniaco lì che aveva detto ha anche ragione. Ma chi è il bosniaco? Io prendo uno come te, il bosniaco, il prete lì della Međugorje, di tutte quelle robe lì che avete parlato ieri sera, no? Sì, guarda sì, che ha ragione, Questi qua, cioè, che se io ti prendo e ti faccio portare sui 72 libri della Bibbia, da nessuna parte troverai... Sì, vabbè, Viorel, però io ti dico una cosa, ma tu sei romeno, evangelico, sì. Quanti figli hai, scusa? Sì. Cinque figli, beh, pochi, dovresti farne di più. Beh, bravo, però. Dovresti fare... Io ho 5 figli, cioè non ho capito. Io ho 5, altri ne ha 10, altri ne ha 3. Mi risulta che voi romeni o rumeni, che dir si voglia, trattate i rom con una certa durezza, come dire, no? O no? Beh, amico mio, se io in casa mia vedi che cammino senza scarpe, sì, non puoi venire a scalpestarmi con le scarpe. Ti adegui alle mie regole, giusto? Sì, dunque. Se io in casa mia bevo acqua, tu non mi vieni a portarmi vino, perché io bevo l'acqua. Beh, questa è una bella metafora. Dunque, concretizzando la metafora e portandola sul piano dei rom, dunque. Bravo, io ti posso dire una testimonianza chiara, diretta. Sì, diretta. Paesi dove era la maggioranza rom, perché insomma sono cresciuti loro, erano maggioranza rom, lì dove lo Stato non ha riuscito a fare un bel niente. Perché che avete fatto? Li avete eliminati? No, ma perché parli se non lo sai? Dimmi. Allora, lì dove lo Stato, gli evangelisti con Vangelo hanno fatto diventare una comunità ben integrata. Sì. Se tu non ci credi, io ci scommetterei con te, ti prenderei con me e ti porterei a Per carità, no, non voglio venire in Romania, amico mio. Poi problemi tuoi se non vuoi venire, scusami. Senti, va bene, ti ringrazio, caro Viorel. Claudio De Piacenza era collegato prima. Claudio. Sì, ciao. Dimmi, dai, veloce, vai, dimmi. È veloce, voglio parlare delle piscine. Che non c'è soltanto urina, come dite voi. E cosa c'è? Ah, beh, c'è di tutto. Ci sono le caccole, ci sono il muco, c'è lo sputo, c'è... No, però, scusa, amico mio, che ne sai? Sei un gestore delle piscine, che c'hai? Ho fatto per 20 anni il maître piscinier, come dicono i francesi. Il maître piscinier, a dopo. È maestro piscinaio, mettilo in italiano. A dopo. Mettilo come... Mi stai dicendo basta la zanzara? Basta la zanzara. No! Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ma va suca! La zanzara. Avanti, ciao Peppe. Sarò breve. Ascolta un attimo. Puoi lanciare un'inchiesta nazionale tra le nostre ascoltatrici italiane quando loro sono andate dal loro ginecologo? Ma che è successo veramente dentro all'ambulatorio? Questo si vorrebbe sapere, perché ci sono tanti sospetti e io c'ho una relazione, nel senso che una addirittura mi ha detto di avere perso la virginità perché è stata smucinata. Tu lancia un'inchiesta, perché c'è un mondo sommerso sicuramente di cui non si parla. Tu lancia un'inchiesta. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Semplice. Se volete parlarci della vostra ricetta di rom al forno, o volete prenotarvi per la puttana di Pordenone, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlarci delle vostre lunghe pisciate, o volete fare complimenti a Cruciani e di contro volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Over the Top! Allora, caro Parenzo, mentre si rinnova l'annuncio per i numeri telefonici per chiamare questa codesta trasmissione, si rinnova con materiale sempre fresco, direi, no? Materiale sempre fresco. Sì, Napoli ce l'hanno con il quotidiano Libero, quotidiano per il quale collaboro, ma anche con la Zanzara, anche con l'accusa, direi, di antinapoletanità, di pregiudizio antinapoletano. Ora, il titolo di oggi, devo dire la verità, da me ispirato peraltro. Allora, devo dire la verità, a me non me ne frega nulla, niente. Ma non me ne frega niente, nel senso che non dico che amo Napoli, perché uno non posso dire dal punto di vista proprio ipocrita amo Napoli, come non direi amo Torino, mentre direi amo Milano perché la conosco. Perché non è che né la amo né la odio. Semplicemente non ho questo pregiudizio antinapoletano. Osservo la realtà. E mi sembra di guardare, di vedere nel vittimismo di quella città, di quella regione, di quell'ambiente. Io ho parlato di calcio, ma si può estendere anche ad altre cose. Uno dei morbi principali, delle malattie principali di Napoli e dintorni. Al di là di tutto, alcune cose sono vere, altre false, alcuni dati possono essere qualche volta esagerati riguardo all'assenteismo, anche se ci sono diverse inchieste, no? Diverse inchieste che toccano, per esempio, ultimamente gli ospedali di Napoli. Però, amici miei, trattasi pur sempre di polemiche giornalistiche, no? C'è stato un piagnisteo dopo la partita con la Juventus? Sì o no? La risposta è sì. C'è stato pure anche il moderato Parenzo l'ha notato, anche l'ignaro Parenzo in tema di calcio l'ha notato. Sì, certo. Osservatore, ancorché osservatore di cose sociali, come dire, no? Bravo. Signor cioè, Parenzo, dai. Ancorché, bravo, mi piace molto. Allora, il professor De Giovanni, lo scrittore De Giovanni, è uno dei più accaniti sostenitori della napoletanità. Si accanisce contro il Libero Quotidiano. Sentite, sono dei cabarettisti. Senti, hai dato uno sguardo alla prima pagina di Libero? Sì. Io mi riservo sempre un momento umoristico prima mattina, cioè faccio sempre in modo di trovare qualcosa per cui divertirmi. Sì. Questi sono i moderni, straordinari cabarettisti che ci offrono sempre un sorriso. Intervistato al programma La Radiazza, con un tizio che si chiama Simioli, Gianni Tizio, una persona molto conosciuta che si chiama Simioli, che parla di libero intestino. Ti abbiamo scelto Maurizio De Giovanni affinché rispondesse a queste due osservazioni del giornale comico Libero. Libero intestino lo chiamo io, intestino libero, anzi. Allora, hanno venduto Higuain e frignano dimenticando di aver comprato Maradona. Vedi, sono meraviglioso. Allora possiamo dire, Maurizio, che hanno scritto già le prime due stronzate, no? Poi dopo ma non credo nemmeno si possono definire così, significa dargli una dignità esagerata, direi. Io direi che hanno dato aria a un orifizio del corpo che non è la bocca. Bene, ecco. Allora confermiamo la nuova testata, intestino libero. Cioè paragonano Libero al buco di culo, cioè praticamente Libero come il buco di culo, diciamo. Mi pare questa la metafora. Mi pare abbastanza evidente. Naturalmente non poteva mancare il signor Alvino, libero occupato, senti. Cioè un cesso praticamente. Il giornale, mi dici il titolo, cioè la testata, quale giornale è uscito con questo titolo sul piagnisteo? Libero. E allora consiglio domani di uscire scontestata Libero trattino occupato, così la gente capisce di quale giornale stiamo parlando. Libero trattino occupato, ognuno facesse le sue deduzioni, cos'è Libero e occupato, e si capisce bene di cosa stiamo parlando. Sono stato chiaro? Quello è Libero a volte, altri giorni occupato, quello è il giornale Libero e occupato. Io invece so che dicevo, Carlo. Allora, bisogna ricordare che c'è un medico napoletano che si chiama Ricozzi, che è stato coinvolto recentemente nello scandalo dell'assenteismo in quell'ospedale, l'ospedale di Loreto Mare, uno degli ospedali napoletani, il quale ha sostenuto una tesi bizzarra. Adesso, per carità, non voglio fare nessun collegamento, però là si tratta, lì è successo tutto, l'ospedale di Loreto Mare. Magari poi una bolla di sapone, e intanto sentiamo Ricozzi che dice meglio 3 ore di lavoro bene, a proposito dei furbetti del cartellino, che una giornata a fare niente. È molto meglio il furbetto del cartellino che lavora bene e lavora 3-4 ore bene, piuttosto che la persona che staziona in ospedale ore e ore e non fa assolutamente niente, sta davanti a un computer. Che come tesi non è nemmeno troppo assurda, no? Cioè, meglio uno che, a parte che sarebbe meglio uno che lavora 8 ore, punto e basta. Cioè, uno dovrebbe dire né furbetti nel cartellino, del cartellino, né gente che sta 8 ore senza fare un cazzo. No, meglio il furbetto del cartellino, sì, che no, lavora, certo, 3 ore, piuttosto di gente che sta lì 8 ore a non fare nulla, perché si dà per scontato che esistano gli uni e che esistano gli altri. Clamoroso, Fabrizio da Milano. Da quello che leggo ha una rivelazione da fare. Fabrizio da Milano è un ascoltatore. Fermate le rotative del giornale. Fabrizio da Milano, sentiamo. Fabrizio da Milano. Salam aleikum, fratello. Sì, salam aleikum. Aleikum salam. Ma che sei, islamico? Che sei, muslim? Aleikum salam. Ah, senti, Parenzo. Sì. Volevo dirti, una volta t'ho visto a Milano con un... adesso non so come definirlo, un trans, penso che sì. Secondo me il 99% era un trans, Parenzo con un trans a Milano, attenzione. Così, uno che telefona alla radio e fa questa simpatica diffamazione, benissimo. Ma non è una diffamazione. Perché una diffamazione? Scusami, non una diffamazione assoluta. Ma perché una diffamazione? Perché essere accanto a un trans è una diffamazione? No, perché non è mai avvenuto, ma porterà le prove. Ma sei imbarazzato però, cioè hai come dire, assolutamente nella porterà, risposta sei abbastanza imbarazzato. Porterà le prove, porterà le prove. Ma dove le porterà queste prove? Al tribunale, 19-25. Ma scusami, uno può chiamare e dire che mi ha visto. Io posso dire a questo, come si chiama questo ascoltatore? Fabrizio si chiama. Fabrizio, sì. Io no, ho visto. Sì, ma tentenni, hai tentennato, no, sei rimasto un po' basito. Io ho visto. Ti stai aggrappando. No, assolutamente. Vabbè, io ad esempio ho visto Fabrizio che stava qualche settimana fa parlando con il signor Romeo di Consip. Ma quello se ne frega, dice sì, va bene. Stava trattando. Comunque la notizia è questa, comunque. Fabrizio da Milano ha detto che Parenzo è stato visto con un trans a Milano, sì. Ma questa è una notizia. Quando è dove? Da verificare naturalmente. Sì, no, mi dica la data in cui era a Milano. No, non lo sa, non se lo ricorda. La data. No, la data, di Milano, ascolta, quando era a Milano? Ascolta, Parenzo, ascolta. Quando era a Milano? Mi può dire quando era a Milano? Ma cosa ne ascolta, apri le orecchie. Dimmi. Quando ero a Milano, mi può dire quando era a Milano? Prima di scoprire. No, ma mi dica, siccome ha commesso un reato... Siccome lei ha commesso un reato, mi può ascolta, dire quando? Stai zitto! Ma stia zitto lei, cornuto che non è altro, che telefona per dire che mi ha visto. Questa mi ha visto. No, questa è una no, questa è la verità, purtroppo. Se lei verificasse a casa sua, come faccio? Lo so. Ascolta. Vai, Fabrizio, dimmi. Allora, parlo spesso con sua moglie. Sì, mia moglie. Sì. Prima di scoprirvi, mi consideravo una persona normale perché facevo le cose normali, eccetera. Poi però cornuto, la zanzara è entrata nelle vene, la zanzara come tanti miei colleghi è entrata nelle vene, e quindi non posso non dire questa cosa qua. Cioè, cosa? Sentiamo. Voi siete un po' merde, io vi amo, però siete delle merde. In che senso siamo delle merde? Perché possiamo anche concordare, quando voi fate le telefonate non siete in diretta. No. In che senso? Dipende, cosa vuol dire? Dipende, alcune volte altre no. Sono tutte registrate. Ma non è detto, alcune volte altre no. No, dovete dirlo, perché ma tu che cazzo ne facciamo sai una tu? Telefonatina. Ma tu che ne sai? Te lo dico, vi vedo. Qualche volta è così, qualche altra volta. Ma non c'è, non è che hai scoperto, scusate l'acqua calda, c'è la telewebcam. Abbiamo scoperto. Io vi vedo! Cosa cazzo vedi? Cosa vedi, somaro d'un somaro? È ovvio, c'è la webcam, è ovvio che vedi, no? Furbo. Fai schifo che non ti si può guardare. Girati, perché mettete il microfono attaccato al muro così 19-27 secondo reato commesso, reato? Sto scrivendo 19-25 primo, la prima diffamazione e poi c'è al 19-27 l'insulto, ingiuria. Sei brutto. Gabriele da Genova, tua moglie Fabrizio. Non pensa così, però non importa, non rompere i coglioni, dai. Gabriele da Genova, dai. Sì, buonasera, dimmi. No, non vuol dire niente. Io non vuol dire niente. Hai chiamato, Gabriele, allora, non vuol dire niente. No, quelli che dicono perché? Niente quando iniziano, chiudili subito, no, per principio. Ma non si capisce, io ho chiamato perché io sono un ascoltatore di Radio 24 e sento sempre la pubblicità. Sento quella pubblicità che dice praticamente che propone se uno chiama l'824-0024 ha la possibilità di mandare a cagare Parenzo. No, veramente non c'è nessuna pubblicità che indica questo. È un nostro, come dire, è un nostro claim. Dice, se volete. Non hai capito la differenza tra la pubblicità e un messaggio mandato da un ascoltatore. Però evidentemente nel tuo cervello trattasi, cioè albergano pigne. Cioè, albergano pigne. Magari fossero quelle. Anche piuttosto consistenti queste pigne. La pubblicità è un qualcosa di pubblico. Io pubblicamente alla radio io sento un messaggio che invita gli ascoltatori. Sì, bene. A chiamare per poter mandare Parenzo a cagare in diretta. Bene, quindi dunque, io sono un o anche in differita, sms invece. Differito un altro numero. Vabbè, allora chiamato per mandare a cagare Parenzo in diretta. Bene, perfetto. Allora mandalo a cagare. Sì, però un attimo, io voglio che qualcuno mi assicuri, che qualcuno si assicuri e mi certifichi che David Parenzo lui espleti questa operazione di eiezione degli escrementi come è pubblicizzato in diretta. Cioè io voglio che qualcuno mi certifichi che lo faccia seduta stante in questo momento. Sono cioè lei dice che non la querelo. Un ascoltatore e ho diritto a questo. Vai, ho fatto forza. Un numero, ho composto forza, numero, vai, ti assicuriamo tutto quello che vuoi, vai. Parenzo, vai a cagare in diretta. Bene, ciao. 19-29. Sì, però, è tutto certificato, non ti preoccupare. Anche il certificato, reato anche certificato dell'ASL da, pronto. Come si chiama questo qui? Che ne so, Gabriele. Fermo. 19-29, Gabriele da Genova. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. A 80 all'ora sull'autostrada, la gente me sona, non me dovete romper cazzo, io mi sto a sentire La Zanzara, sto a allungar brodo, non rompete il cazzo. Fermi tutti, la zingara del Lidl adesso è a Grosseto, vado a cercarla, la intervisto e vediamo. Comunque sostanzialmente dico no a Mauro da Mantova perché ha alzato la cresta e te giustamente gliel'hai tagliata. E ora va a piangere a Radio Calabria là, che vada a fanculo anche lui. Attenzione, attenzione, tutti fermi. Più tardi qui alla Zanzara interverrà l'avvocato gigolò, il signor Mangiacapra, quale sostiene. Ma cos'è Mangiacapra? È un cognome, Mangiacapra. Ti chiami Parenzo, tu, non ho capito. Ecco, ti chiami Parenzo. Nome di una città meravigliosa dell'Istria. Dell'Istria, lo so, anche una via, ci sono diverse vie ispirate sempre a quella città, immagino. No, non solo, ce l'ho via ispirate ad esempio a Cesare Parenzo, che è il mio business. Sai che bisognerebbe chiamare i Parenzo in Italia? Lei non si vergogna di chiamarsi Parenzo? Siamo solo noi. No, non è vero, non siete solo voi. In tutta Italia siamo solo noi. Quindi se lo fai sappiamo da chi è partita l'idea. Siamo solo noi perché... in tutta Italia siamo solo noi. Quindi comunque, l'avvocato Mangiacapra dice: meglio vendere il corpo che svendere il cervello. Questo è un avvocato, professor Mangiacapra. È diventato gigolò perché dice l'avvocato. Che si guadagna di più. Sì, dà il pisello in giro per l'Italia. Vabbè, questo problemi. Senti, problemi da questo punto di vista. Questo signor Mangiacapra, questo principe del foro, no? Sì, tal Mangiacapra. Sì. No. Se gli va bene così. Sì. Ma, e tu reputi normale. Normalissimo. Che normalissimo. Per guadagnare dei quattrini e guadagnare di più, se uno vuole usare una parte del proprio. Scusa, non ho capito. L'avvocato. Ma se uno, scusa un attimo, se uno vuole utilizzare il proprio corpo per morire, non capisco se va bene. Perché figurati. Questo va bene. Invece, se uno utilizza una parte del proprio corpo certo, per guadagnare dei quattrini, non riesco a capire perché per te non va bene. Va benissimo. Guarda che sarà ipocrita o no? A me sta simpaticissimo questo Mangiacapra. Non me ne frega. Ti assicuro che stasera avrò sonni tranquilli con Mangiacapra, non mi interessa. Comunque sentiamolo in anteprima questo Mangiacapra, credo da al mattino dove che ha risposto. Dov'è? In questo. Senti, Mangiacapra, signor Mangiacapra sta per pubblicare un libro anche. Signor Mangiacapra. Corro a prenotarlo. Forse poco in realtà. Ho iniziato proprio con un avvocato che per 20 minuti insieme mi ha pagato esattamente quanto percepivo per un mese di lavoro. All'epoca come praticante avvocato ho capito che potevo farne un business e che il mio era un business a tempo, quindi non avevo tempo da perdere. Il mercato del sesso non è mai in crisi, mai. Il mercato del sesso è un mercato che non vede mai crisi, quindi la rosa della clientela è ampia e anche molto variabile, persone sospettabili, persone insospettabili, professionisti, intellettuali, padri di famiglia, preti, disabili. Anche preti? Molti preti. Molti preti. La chiesa di Napoli trema, caro Parenzo. E poi la massima che dovresti stamparti anche tu: vendo il corpo e non svendo il cervello. Ci sono uomini, donne, coppie, anche persone transessuali che richiedono il mio accompagnamento. E chi si prostituisce guarda i soldi nelle persone, per cui spesso si scende a compromessi, ma d'altronde tutti scendiamo a compromessi nella vita. Io ho deciso di scendere a compromessi vendendo il corpo piuttosto che svendendo il cervello. Vabbè, più tardi sentiremo. Intanto, caro Parenzo, qualche giorno fa un tizio mi minacciava, un tizio da Napoli, un tale Raffaele Vorrano, mi minacciava in questo modo, ma chi se ne frega. Io, deve essere chiaro, io non prendo sul serio queste cose come fa qualcun altro, le famose minacce online, semplicemente me ne sbatto i coglioni perché penso che queste cose lasciano il tempo che trovano. Cioè una cosa scritta di minaccia, oggi uno ha scritto addirittura per Libero, per quello che ha scritto sul Piagnisteo napolitano ci vorrebbe l'ISIS. Uno può credere a una cosa del genere, chiaramente. un po' eccessivo. Ma no, ma è eccessivo, ma non ci credi, no? Cioè, non ci, è eccessivo, certo che è eccessivo, è criminale volendo andare alla natura delle parole, ma non ci credo, cioè sono follie, dunque lascio stare. Però ogni tanto sono curioso di sentire la voce di queste persone. Raffaele Vorrano ha scritto: Cruciani è un soggetto da sopprimere. Se domani un napoletano, se domani leggessi sui giornali che qualcuno l'ha ammazzato, aprirei una bottiglia per festeggiare. Un continuo inneggiare al rancore, una continua ricerca della lite. Muori, bastardo, ci fai felici. Un altro gli risponde: un giorno di questo prenderai tante, ma tante di quelle mazzate che per riconoscerlo, cioè per riconoscere me, dovranno chiamare NCAI. Va bene, Raffaele Vorrano, l'abbiamo rintracciato, sentite. Pronto? Raffaele? Che? Come va? Giuseppe? Giuseppe? Sì, come stai? Sto bene, non ho capito chi Giuseppe però. Beh, il soggetto da sopprimere, come no? Pronto? Il soggetto da sopprimere, Cruciani, come stai? Pronto? Raffaele! Non si sente nulla. Sì, si sente, Raffaele, si sente. Non lo so, se mi senti prova a richiamare. Sì, prova a richiamare, mio nonno prova a richiamare. Il soggetto da sopprimere sono Cruciani. La prima è andata così, sentite la seconda. Pronto? Raffaele? Sì, ora sento. Oh, sono il soggetto da sopprimere, come stai? Soggetto da sopprimere? Ah, e ce ne stanno tanti. Sono Cruciani, il soggetto da sopprimere. Ah, sì, buonasera. Come va? A me tutto a posto. Tutto a posto? Muori, bastardo, ci fai felici? Beh, io ti vorrei fare felice morendo, però aspettiamo un po' di anni, no? Non lo so, la natura fa il suo corso. Sì, vabbè, per carità, la natura fa il suo corso, in che senso? Cioè, però speriamo il più tardi possibile, no? Sì, no, vabbè. O no? A me è quello che deve fare. Oppure speri che qualcuno mi ammazzi? A me non mi interessa proprio, tu puoi fare quello che vuoi. Ma come, hai scritto, se domani leggessi sui giornali che qualcuno l'ha ammazzato, e prendere una bottiglia per festeggiare? Dopo tutto quello che dici. Ma che ho detto? Dai, non fare sempre se... Dire, che ho detto? No, ma tanto da meritare la morte. Lo devo dire io. No, ma tanto da... bene quello che dici. Tanto da meritare la morte. La morte. Bene che... ma che lavoro fai, scusa? Che vuol dire che lavoro faccio? Lo sai? Beh, perché merito la morte per quello che dico. Merito la morte. Ma è giornalista, tu. Ma anche... È bello aizzare e mettere contro gente. Aizzare e mettere... Cioè, tu parli di morte e io... E tu mi... tu parli di morte... Non si sta pigliando alla parola morte adesso. Ah, no, no. Beh, insomma... No, un continuo inneggiare al rancore, una continua... Muori, bastardo, ci fai felici. Beh, io ti vorrei fare felice, Raffaele. Ti vorrei fare felice. Ma spero il più tardi possibile. Spero il più tardi possibile. Se era questo che dovevi chiarire, se ne esci così con la... te ne stai uscendo da eroe, fammi capire. Da eroe. Qualcuno ha augurato la morte e tu stai dicendo sì, ma perché io merito di morire? Ma la bottiglia l'hai messa in fresco o no? La bottiglia non messa in fresco, la bottiglia è quella che ti bevi tu ogni volta che fai le trasmissioni. Sì, guarda, vado sempre ubriaco in trasmissione, sì. Sono sempre sbandato, ubriaco, eccetera. Sì, è proprio. Comunque, Cruciani è un soggetto. È un soggetto. No, non sto malissimo, guarda, ti assicuro. È proprio bene. No, sto male. Sto male. Io sto male. Tu dici che Cruciani è un soggetto da sopprimere? Sì. E sono io che sto male. Non stai bene, perché non c'ha senso proprio andare vicino a quell'altro demente a fargli ripetere quelle cose, a tirargli quelle cose da bocca. Ma che senso ha? Stai parlando di Mughini. Sta parlando di Mughini, sì. No, ma tutto bene. Ma si può criticare Napoli o no, professore? Scusi, professore? Si può criticare Napoli o no, professore? Scusi, Ah, ma quella è la cosa. Si può criticare o no? Oppure uno merita di morire se critica? Vabbè, ma ti stai pigliando sulla parolina. Ma tu l'hai detta, a me, sennò che cazzo ti chiamava a fare se non l'avevi detto, scusa. A me che mi interessa. Ma che cazzo mi hai chiamato a fare lo stesso? Allora tutti quelli che dicono una cosa del genere, tu mi chiami? La morte, amico mio, ti stai curando la mia morte. Volevo semplicemente rassicurarti che per ora non se ne fa niente. Però magari devi aspettare qualche anno, capito? Cioè devi aspettare qualche... Tu l'hai visto Natale in casa Cupiello? Sì, me lo ricordo, certo. L'hai visto mai? Tieni presente da quando il figlio scrive la lettera? Sì. La lettera alla mamma di Natale? Sì. Allora... E quando dice 100 anni pure a zio Pasqualino, sì? Però con qualche malattia. Cioè, ti auguri una bella malattia per me? Eh? Questo. una bella malattia, una bella malattia. Io mi tocco un po', io mi tocco un po'. Vabbè, Raffaele, sei un, Raffaele, sei un cretino, basta. Uno semplicemente. Tu sei quello buono invece. No, buono, no, io sono, ammetto però ogni tanto i miei difetti, capito? Tu sei tu che ti auguri, la morte, ti auguri la morte, la malattia. Imbecille, vabbè. Vabbè, Raffaele, vabbè. Vabbè, io ti voglio bene comunque. È un cretino. Io ti voglio bene. Fai il giornalista serio, fai il gossip da tre soldi. Sì, sì, sì, sì, devo morire per questo, devo morire. Devo morire, devo morire. Non devi morire, vaffanculo direttamente. Bello, bello. E tu ti dai con Juve, non chiamare proprio più. Sì, ciao, ciao, ciao. Ma che c'è tanta aggressività. Allora, Riccardo, provincia di Pisa. Vai, Riccardo, vai, vai, vai. Mamma, ciao, Giuseppe, quanta ciao. Aggressività che c'è in giro, troppa, Parenzo. Troppa, quanto troppa. Odio. Madonna, guarda, quanto odio. Guarda. Troppo. Ma forse contribuiamo anche noi, ci dicono, contribuiamo in questo clima di odio, ma di tensione continua, di, no, di rabbia sociale. Vabbè. Ma sai, il tuo non prendere le distanze da queste parole violente che alle volte vengono qui evocate, forse un po' contribuisce. Ma che cazzo stai? Dai, vai, Parenzo, subito a fare il moralista. Infatti, guarda, volevo chiamare per questo. Chi è questo qua? Chi è? Riccardo, se Riccardo. Se c'è una ma storia, io perché? Se c'è una cosa che mi fa, ma non che saranno mi mai troppi i soldi che mi danno per ascoltare sta gente. Ma non saranno mai troppi. Uno. Ma io, uno come te, sei figlio del relativismo. Riccardo da Pisa. Non hai un punto fermo nel. Ma perché l'opinione di Riccardo da Pisa deve valere quanto quella di Emanuele Severino? Perché? Perché? Dai, dai, dai, sei un moralista. Oltretutto, c'hai un problema. Che te sei ebreo, sì, sì. E da ebreo se ti permetti di offendere la chiesa, la religione cattolica, no, è una cosa che non ho mai fatto, no, in vita mia. Sì, al massimo sono io, aspetta, lascia anche per te, perché Parenzo c'ha un problema solo, è che quando parla delle cose, no, tipo i pedofili, lui la castrazione chimica, ma la castrazione chimica è un cazzo, ma cosa cazzo dici? Allora voi, che voi ebrei avete ammazzato Gesù Cristo, ma stiamo scherzando, cioè se si vuole aspetta parlare secondo, di questo, scusami, parliamo scusami. Di questo, no, capito? Scusami questo, solo un secondo, poi, scusa un attimo, Cruciani, perché mi ero distratto, stavo Cruciani, scrivendo un messaggio, scusa, un forse non ho sentito bene, Cruciani, no, no, no, no, no, no, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. No, no, no, no, un momento, non si arriva, resettiamo un attimo la discussione. Ti eri distratto sugli ebrei, sì, no, sugli ebrei che uccidono Gesù Cristo. Le solite minchiate, cioè, ho sentito a un certo punto che gli ebrei hanno ucciso Gesù Cristo. Sì, sì, sì. Lei sa che è dal Concilio Vaticano II che neppure una parte della Chiesa vabbè, sostiene più questa roba. Il professore, neppure, dai. No, glielo ricordo. Ma infatti, sì, è dal Concilio Vaticano II che, sì, la Chiesa, sì, fondamentalmente, quindi gli ebrei hanno come un cazzo di moralista relativista. Quindi gli ebrei avrebbero ucciso Gesù Cristo. Prego? Ho capito bene? No, prego, prego un cazzo, ma ho capito bene? Non ho capito la domanda, se me la ripete. Gli ebrei avrebbero ucciso Gesù Cristo. E chi l'ha ucciso, scusa? Ho capito, Babbo Natale. Ho capito giusto? Certo. E chi l'ha ucciso, scusa? No, è abbastanza. Era ebreo anche Gesù, vuol dire, stava ucciso dagli ebrei, non è che ci vuole tanto. Era ebreo anche Gesù. I romani, no, non c'entrano niente. I romani, certo, sulla, i romani, sulla croce, che c'è scritto sulla croce, in, sulla croce che c'è? In ri, in ri, che vuol dire in ri, somaro? Scusa, aspettate un attimo, aspettate, scusa, scusa, aspettate, posso chiudere la discussione in questo modo? Bravo, no, no, vabbè, comunque questo è veramente, comunque, era un inciso. Io ve le volevo dire la questo. Ragazzi, mi è scappata, che devo Cruciani, fare? Cruciani, fermo, fermo, basta, basta. Dai, no, basta, fammi dire cosa. Basta. Sei importante, sei basta. Importante. Basta. I'm a real wild one. Wild one. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Oh, grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo. Mauro sì. Corona oh, con noi. Finalmente, eccoci finalmente. Qui. Buonasera. Come ciao, andiamo, Mauro? Mio. Vado benissimo. Che hai fatto? Che hai fatto? Che sei trafelato? Che hai fatto? Hai finito no, di... No, sono tranquillo, sembro trafelato. Ah, sei dobbiamo... sono triste. Che dobbiamo ancora, fratello mio, fare quella arrampicata io e te, mi raccomando. Ma ti prego. Quando vuoi, adesso che viene la primavera, si può andare. Sì. Dobbiamo andare sul campanile. Ma perché insieme. Sei triste? Non ho capito, Mauro. No, no, cose mie private, forse la vecchiaia che avanza. Sì, sono triste, sì. C'hai sempre questa velatura di tristezza, tu. Questa velatura. Sì, sono triste. Sì. Come tutti i veri intellettuali. Triste, solitario, i final, direbbe i qualcuno. Final. Triste, bravo, vedi che ogni tanto bravo, me ne esco bravo, con qualche bravo. Cosa. Triste, solitario, i final. Che ecco. Come si chiama l'autore? Non mi ricordo, uno spagnolo. No, scriveva anche di calcio. Di... Ma chi è? Cosa? Quello spagnolo famoso? Sì. Non mi ricordo. Sì. Io ho il cervello ormai in pappa completamente. Senti, io non ho capito una cosa. Di fronte alla questione della morte, dell'eutanasia, quello Soriano. Che è successo sì. A DJ Fabo, Corona, tu più volte da noi, Mauro, hai detto: beh, io sicuramente non soffro e la faccio finita prima. E ho addirittura... detto che la vita è mia. Sì. Privata, la mia vita è privata, non certo. Devono entrare né vescovi né preti né Giovanardi né Adinolfi a dire come devo morire io. Se certo. Sono in fin di vita malato e straziato e non c'è bravo. Più speranza, mi faccio far fuori. Punto. Questo d'accordo, ma perché bravissimo. Adinolfi che ti ha fatto, signora Adinolfi? No, non mi ha detto che sono con protezione della vita, ma chi decide la vita? Gli altri della mia vita, chi decide? Tu, ma è a me come noi. Decido io, non deve intervenire nessuno. Ed è una vergogna che uno Stato bigotto, bacchettone e pavido non faccia una legge bravo. Per entrare ai malati terminali. Io ho assistito 62 giorni un mio carissimo amico. Sì. Aveva torturato dal male fisico. Aspetta, Mauro, allontanati un attimo. La morfina non gli faceva più nulla. Mi faceva segno di spararli col grilletto, tirava il dito come tirare un grilletto e hanno lasciato morire nei tormenti. Io ho chiesto al professore, ma fatemi una puntura, non si può. La mia vita la decido io, cazzo, e nessuno si deve impicciare. Aspetta un attimo, stacca di un attimo dalla cornetta, sennò si sente un ritorno pazzesco. Va bene. Leggermente distante, no, ma bravo, leggermente giusto, distante. Mi pare che abbia capito. Abbiamo capito tutto però, cioè nessuno si deve impicciare. La mia vita no, né vescovi, nessuno, né... Facciano una legge. Quando un uomo è malato terminale e soffre, qualcuno deve aiutare. Io ho già messo i miei killer. Purtroppo uno è morto prima di me. Cioè, non io ho capito. Già disposto tutto. Sì, questo l'avevo capito una volta. Cioè, l'ho detto più volte. Hai già disposto tutto, cioè hai già preparato che ho cosa? Ho preparato qualcuno che mi dà una fialetta. Ah, hai dato la fialetta a qualcuno? Sì, me la mette in bocca o mi metterà qualcos'altro. Perché non c'è una legge che mi aiuti, che è uno Stato bigotto, bacchettone e pavido e vile. No, io non ho capito una cosa. Allora, siccome c'è questo disturbo sulla cosa... Ma c'è qualcuno a cui hai dato cosa? Una pillola? Allora, cosa hai dato? Ho dato i mezzi per farmi fuori quando sarò malato terminale. E se ce la farò, sì. Me arrangerò da solo. Sì. Cioè, non ho capito. Allora, uno di queste persone a cui hai dato la fialetta è morto? Uno sì. Uno non c'è più. Cioè, vabbè, è morto. Un contrappasso particolare, cioè hai dato la fialetta a uno. È morto prima di me, avevamo questo papà. Non voglio far la fine del mio amico, 62 giorni terrificanti e non lo hanno fatto morire prima. E adesso sta fialetta chi ce l'ha? Non ve lo dico chi ce l'ha. No, chi ce l'ha, no, chi ce l'ha, no, ma non voglio sapere chi la persona, ce l'ha qualcun altro, l'hai data a qualcun altro? Sì che ce l'hanno. Ah, ce l'hanno. È una fiala di cianuro che spezzerò coi denti, no, me la spezza lui o lei. Una fiala di cianuro. Vabbè, ma non voglio che nessuno si impicci nella mia esistenza, non hanno diritto nessuno. Giovanardi dice che la vita, anche Adinolfi dicono che la vita non appartiene a noi, caro Corona. Sì, non me ne frega nulla, la mia appartiene a me, punto. E al signor Adinolfi che dice che come Hitler che sopprimeva gli ebrei, come rispondi al signor Adinolfi? Ma non rispondo a queste persone, parlo di me e della mia vita. E uno Stato bigotto, vile, assente, non fa una legge per aiutare i malati terminali e sofferenti. Ma per me... altri non mi interessa di nessuno. No, lo so che non ti interessa di nessuno, però c'è un dibattito in corso molto forte tra persone cattoliche che dicono, o molto cattoliche, che dicono che la vita non ci appartiene, ed è una follia secondo me, perché l'unica cosa ma che c'è... Ma chi l'ha detto? Ma in base a chi? A loro? In base se al fatto... Se io non sono cattolico, cosa dico? No, ma a parte che anche, no, certo, a parte che molti cattolici se ne sbattono di queste cose e sanno benissimo che la vita appartiene a loro. Ragazzi, se c'è una cosa che ci appartiene, io sono d'accordo al 100% con Mauro, se c'è una cosa che ci appartiene, dico una cosa, cazzo, non abbiamo molto potere nella vita, no? Non abbiamo grandi poteri, dipendiamo sempre da qualcun altro. No, in tutte le cose dipendiamo da qualcun altro. Se c'è una cosa, se c'è una in cui in fondo siamo padroni di noi stessi, sempre e comunque esclusivi padroni di noi stessi, questo è il poter crepare quando vogliamo, beh, certo, in serenità. Questa è la realtà dei fatti. Bisognerebbe scrivere un manifesto su questa cosa qua. Non siamo padroni di un cazzo, di una cosa siamo padroni, di morire senza soffrire. Però il cianuro, sei sicuro che serve il cianuro? Cioè, sei sicuro che produce? Sì, c'erano le fialette, per si andava a prendere le volpi per le pellicce quando ero giovane. Per cui... Non, certo, mica non sono mica battute, la mia vita. No, ma mia. Lo so, certo, lo so, certo, che non sono battute. Ecco. Cioè, no, ma poi magari c'è. Non è che uno si prende una cosa di cianuro e poi non succede un cazzo, è quello il punto. Come poi, no? Vuoi provarla? No, per carità. Non No, assolutamente. Cioè, secondo te proprio l'effetto è immediato, meglio di una pistolettata, perché la pistolettata. No, non riesci neanche, appena fa crack sei morto. Ah, proprio così, appena fa crack la fialetta, sì, tac. Sì. Sei crepi, no, subito. No, non senti niente, beh, questo non si può sapere. Però. Beh, sì, come? No, ma soffri o no? Soffri o no? No, non soffri niente. Nulla di nulla. Non si soffrirà sempre meno di quando si soffre dolori terribili e non ti fanno dire. Senti, a proposito andare in Svizzera. Beh, in Svizzera si paghi 10.000, 10, 15.000, 16.000, paghi. Qualcuno lo fa addirittura per la depressione. Oggi in Belgio una ragazza di 24 anni, depressa, ha chiesto di essere ammazzata e gli hanno detto di sì, adesso la cosa avverrà nei prossimi giorni. Ma io anche su quello non sono totalmente negativo, Se uno è particolarmente depresso, insomma, ragazzi, uno è padrone della propria vita anche di sopprimerla, diciamo la verità. Come no? In tutti i modi, anche se non se la sente, è depresso, ultra depresso, non ce la faccio più. Mi do una pistolettata. Ma se non si vuole dare una pistolettata perché non hai coraggio, vada da qualche parte che gli faccia un'iniezioncina. Poi magari si pentirà. Ma tanto sei morto. Come fai a pentirti quando uno è morto? Quello viene dopo, pentire o non pentire. Resta il fatto che la vita è mia e la devo decidere io. Sì, ma non persi. Non Giovanardi. Per esempio, Giovanardi, che ne pensi il signor Giovanardi? Ma io non so, non so, non posso giudicarlo, non mi interessa, lo ignoro. Lo ignori. Basta che non si impicci nella mia vita. Allora, riprendiamo dopo la pubblicità col signor Mauro Corona, perché mi deve dare un'opinione sulla sicurezza. Molti VIP, dietro le loro ville sontuose, dicono, c'è un problema di sicurezza, perché vedono, come a Casa Celentano, qualche signore a girarsi nei dintorni, nelle loro ville, qualche signore coperto, il pericolo. A prova. Lasciativo Parenzo, e alla defecazio non ci penso. La Zanzara. Mi chiamo dal Texas. È una considerazione su questa storia della morte assistita che vorrei fare. È che siamo tanti nel mondo, siamo veramente tanti. Se alcuni si vogliono volontariamente levare dai coglioni, ma lasciamoglielo fare, ma va bene, fa parte dello schema di Darwin. Cioè, questi non li vogliamo, la depressione è una malattia, oltre alle malattie oncologiche che ci sono, ma basta, facciamoglielo fare. Via, cazzo, se 7 miliardi di persone, quanti cazzo vogliamo essere su sto pianeta? David, volevamo solo dirti che noi ti supportiamo, la maggioranza silenziosa c'è, combatte e c'è, nel silenzio della notte, ma c'è e ti supporta. Dai Parenzo, lotta, lotta, lotta, il perbenismo trionferà. Dai David, dai cazzo! Credetemi, ogni giorno a quest'ora alla mia ragazza gli dico che la cosa più bella che mi è capitata nella vita è la Zanzara. Cruciasi na lote, cruciasi na latrine, cruciasi non me merde. Ma basta però, già, fine primo tempo, ci sentiamo rimane. Ho Allora adesso torniamo con Corona. Intanto Generoso Napoli, vai Generoso, vai Generoso allora, da Napoli. Buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Non so se devo parlare con voi con i toni che utilizzate normalmente. Un discorso serio lo si potrebbe fare, sì. Ma è un po' complicato con voi. Che si deve tirare fuori la questione meridionale, oppure si deve tirare fuori ancora prima la l'unificazione d'Italia? Ma chi la tira fuori? Io ho parlato di vittimismo nel calcio. No, ti devi stare zitto, porca puttana. Iniziamo a, dobbiamo cambiare per forza. No, devi stiamo calmi. Voi capite di calcio per caso? Senti, Generoso, avete mai giocato a pallone? Generoso, se vuoi venire a rubare, vuoi venire a rubare a casa dei ladri, è un altro discorso. Allora, allora, dai, vedi stare un po' calmino, amico mio. No, sto calmo, però tu non devi intervenire, devi parlare. Devi stare calmo e calmino. Qual è il punto? Qual è il punto fondamentale? Dimmi. Ma perché? Fammi capire. Voi capite di calcio? Ma che ti interessa a te? Che ti interessa se capiamo di calcio o no? Che ti interessa? Sono 50 anni. Sono 200 anni che ci avete rotto i coglioni. I piemontesi ci hanno scassato il cazzo. Eccolo qua, i piemontesi ci hanno scassato. I piemontesi ci hanno... Perché? Perché aspetta. Perché vi hanno scassato il cazzo i piemontesi? Spiegami. Perché ci hanno rubato l'unità, ci hanno rubato sempre, da sempre, vi hanno rubato i signori piemontesi, cosa hanno rubato? Ma un po' di storia dovete Ma a te cosa ti hanno rubato? A te personalmente i piemontesi che allora io ho provato a essere italiano, non ci riesco, perché quando vado a giocare con la Juventus mi rompe proprio le scatole, mi rompe le palle. Dovete essere obiettivi. Hai provato a essere italiano e evidentemente non ti senti italiano. Beh, questo lo capisco, ti senti borbonico. Mi sono distratto un secondo, scusami. Come si sente questo signore? Dice che ha provato a essere italiano e si sente borbonico, perché i piemontesi gli hanno rotto i coglioni e gli hanno rubato. Si sente borbonico? Ma continua a rubare. Ma cosa lei continua... si sente borbonico? Borbonico, sì. Cosa ti senti? Ognuno posso dirsi quello che sì, gli fa. Sì, certo, io mi, banano, sento io mi sento bubù, per esempio. Tu, io mi sento, io mi sento abitante di bubù. Di bubù, esatto. Abitante del paese, della libera Repubblica di bubù. Per chi si sente borbonico. Per carità. Posso dirsi anche vogliamo parlare degli episodi calcistici invece di parlare di queste cose? Ma anche no. Magari non siete all'altezza di parlare. A me basta storia. Qui la conversazione. Quando dice io magari mi sento borbonico, non basta di storia perché non capito un cazzo. Sì. Tu invece sì, perché ti, siccome tu pensi di essere borbonico, tu invece sei un io grande mi sento esperto. Come Yoda, ma quello no, di Guerre Stellare. Allora, invece Yoda, vogliamo signor abbassare Yoda. I toni, ti dico per... beh, vogliamo abbassare i toni. Noi siamo tranquillissimi. Che toni? Allora, scusi, dai, però, io dico questo. Se lei chiama in radio per dire che non si sente italiano e si sente borbonico, ogni volta che vedo queste cose mi passa la voglia. Io ci provo a essere italiano, poi vedi l'arbitro Valeri e dici no io sono borbonico. Beh, però un ragionamento Valeri, non è male. Vedo maglie gialle che giocano a favore delle maglie bianconere maglie insieme gialle, a loro sì, come dodicesimo uomo Borbonico. Ma non soltanto contro il Napoli. Mamma. Maglie gialle dove sarebbero con Torino, le maglie gialle sono di Sabaudi. Borbonico si sente. Sono Sabaudi, no, sono oppure Sabaudi. Sono anglosassoni, che ne so io. Ecco, ma a te cosa hanno rubato i piemontesi di cui parlavi prima? Cosa hanno rubato i signori piemontesi? Per intenderci inizio a immaginare che Banco d'Italia contiene hanno d'Italia. Una cassa di 5.000 miliardi di lingotti d'oro che sono di provenienza del Banco di Napoli dopo la guerra di unificazione. Dopo la guerra di unificazione. Parenzo sottolinea questa cosa qua. Sì, questo è importante. Prendi appunti. Prendi appunti. No, è tu che hai chiamato. Noi sono io che voglio parlare con te. Hai chiamato tu. Se vuoi parlare con me. Hai chiamato tu. Comunque. La Banco d'Italia contiene, cioè, sostanzialmente sono dei rapinatori che hanno soldi vostri, diciamo, vostri. Ma certamente. Hanno rapinato le fabbriche. Ecco. Dell'Ottocento. Hanno rapinato le fabbriche dell'Ottocento. Se le sono portate a nord. Hanno cioè praticamente, hanno praticamente deportato, sono, hanno deportato manodopera sì, in tutta Italia. Deportati. Bene, allora qui abbiamo la deportazione, i borbonici, il Banco d'Italia che contiene. Abbiamo tutto per chiamare. Le casse del Banco d'Italia contengono 5.000 miliardi di lingotti d'oro. Senti, poi che c'è ancora, diciamo, di furto. Aumentiamo. E poi c'è quello calcistico che si perpetra ormai da quando esiste il calcio. Da quando esiste il calcio? Che, ma non soltanto praticamente secondo questo quadro che tu hai dipinto in maniera così chiara, in maniera così evidente, bisognerebbe praticamente lanciare l'assalto con la cavalleria. No, assolutamente. E che cosa bisogna fare? Assolutamente. Bisogna. Che la famiglia Agnelli e tutti escano fuori dal calcio, vadano a giocare in un altro pianeta. In un altro pianeta. E lasciano il calcio italiano all'Italia. Così io ritorno a essere un italiano. tranquillo. Ho capito, per tornare a essere italiano, tu devi cacciare, cioè praticamente tu hai il distacco del Piemonte. Posso dire una cosa, generoso, scusa, sì. Ho ascoltato un po' di cose. Sei un coglione, te lo posso dire? Ma io mi aspettavo che dicevi sta sei un coglione. Non sei all'altezza di un dibattito. No, tu sei ignorante. Beh, no, certo. Tu sei ignorante, per questo. Posso dirti la verità, sei un coglione. Questo è il punto fondamentale. Sei un coglione totale. Detto da te, sei un coglione. No, ma sei. Complimento. Non è che sei un coglione totale. Purtroppo sei una persona che bisogna chiamare le ambulanze. Non basta, forse. Ambulanze, però, munite già del farmaco. Ma è solo per fare audience queste cazzate che dite in continuazione. Girate il ragionamento. Tu hai detto che non ti senti italiano, ma borbonico. E noi diciamo, cazzo, mi fa impazzire questa cosa. Noi possiamo essere. Ho detto che quando succedono questi scippi di carattere, non ti senti più italiano. Perché non prendi la tesserina come faceva la signora Lores con lo Stato borbonico direttamente, invece della carta d'identità italiana? Dovresti prendere la carta d'identità dello Stato borbonico. Perché non mi è concesso, non mi è permesso. Non siamo in democrazia, non siamo nella libertà per cui uno si sceglie la propria vita e va dove cavolo gli pare. Siamo semplicemente in uno Stato che non è uno Stato di diritto. Chi ha il potere lo gestisce male, lo gestiscono anche attraverso il calcio. Attraverso la sanità, le ASL, i centri di igiene mentale. Dove ci dovresti andare tu e quell'altro coglione che c'è a fianco che mormora. Mi saluti la famiglia, buonasera. Ciao, benvenuto. Ciao, imbecille, grazie. Mi saluti tutti a casa, mi raccomando. Ma vaffanculo. Anche lei, grazie. Signor Corona, mi sa che si è rotto i coglioni, signor Corona. Non rispondeva al telefono, mica è colpa nostra, che cazzo. Affanculo, va. Franco, Napoli, vai. No, buonasera. Dimmi, Franco, dimmi. Lo sdegno è d'obbligo in questi casi, a due riguardi, anche nel napoletano, perché ormai, ma tu le fai un concetto veramente da attore. Io ci rido anche sopra, perché vuoi provocare un popolo napoletano in tutti i modi, in tutte le maniere. Apparente in tutte le televisioni, ma tu pensi che veramente siamo un popolo di cretini? Padre, il piagnisteo, la maggior parte delle persone siete abituati al piagnisteo. I piagnistei stanno in tutta Italia. Piagnisteo, anche, certo, però voi siete specializzati, in piagnisteo, la mafia capitale, dove sta la mafia capitale? Ma che c'entra piagnisteo con questo, scusa? Ma cosa c'entra piagnisteo? Ma chi ha detto, chi ha parlato di Camorra? Ho parlato di piagnisteo, cretino, ho parlato di piagnisteo. Tu sei uno stupido ignorante. Ho parlato di piagnisteo, imbecille. Sei una bestia. Con i napoletani non parlare più. Ah sì, perché tu non mi devi dare l'autorizzazione. Devi essere inibito perché sei un fascista. L'autorizzazione di Franco da Napoli devo avere. Sei un fascista. Senti, ho parlato di piagnisteo napoletano, chiaro. Ma può essere, ma sono cazzi miei. Bravo, sei da Oscar. Sì, da Oscar, Franco, c'è il piagnisteo o no? C'è il piagnisteo o no? Non c'è piagnisteo. Bene, non vi siete lamentati. Vi siete lamentati o no? Vi siete anche da altre parti. Certo, non c'è dubbio. Si ruba per poco, ma in altri Italia, assurdo. Ma io non ho parlato di furti, ho parlato di un'altra cosa. Devi stare calmo, devi stare tranquillo. Ho parlato di piagnisteo napoletano per il calcio. C'è il piagnisteo, sì o no? Sì. Punto e basta. Ti lamenti, sì o no, continuamente? C'è il vittimismo. Per me non è vita, non è fondamentale. Ma che mi interessa? Io di quello ho parlato. No, No, caro Luciano, tu... Sì, Luciano mio nonno, Cruciani, no Luciano, mio nonno, Luciano. Poi la provocazione che provoca anche isterismo, capito? Sei bravo però su questo, ecco. Franco. Allora, ti dico, guardati attorno, è tutta l'Italia che marcia. Non parlare marciume. No, il vittimismo è un male italiano, non c'è dubbio. C'è un marciume, non parliamo del calcio. Ma che c'entra calcio, il marciume? Che mi interessa calcio. A me del marciume? Sto parlando di un'altra cosa io, tu non mi interessa. Napoli, di Napoli non hai mai espresso un concetto... diciamo positivo, uno solo, che dica di uno, ti conosco molto bene, ti osservo, sì. E sei un provocatore contro il Napoli. Ma non lo so, ma Napoli. Io non mi interessa a ma me questa tua questo tuo giudizio è ininteressante per me. Io giudico alcune cose e le giudico come mi pare. Penso che ci sia un piagnisteo sul calcio, e lo dico senza problemi. Io non c'è un vittimismo continuo. Pensate di essere vittime di non so che cosa, sempre del nord che è cattivo, del nord che è brutale, del nord che ha sfruttato, del nord. I poteri non sono forti al nord, i poteri del nord, i poteri del nord, per dirtene una, la bandierina del segnalino della partita è stata inquadrata con le assicurazioni di chi in fatalità con la pubblicità occulta. Questo la osservi o non la osservi? Che sta dicendo? Che sta dicendo questo? Aspetta, Franco, è ancora in linea? Franco ha abbassato. Franco, è caduto la bandierina con la pubblicità occulta. Ma che era la pubblicità occulta? Fermi tutti, pubblicità. Parenzo, ogni tanto il tuo cesso si rompe. Ma che cazzo caghi? Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Ascolto la zanzara e mi faccio un bidet. Siamo al top. Amore, ma quella volta mi ha regalato le mutande vele nere, ti ricordi? Ma quanti giorni l'ho portate senza cambiarle mai? 10. Siamo al top. Sono in macchina. E anche se oggi ci sono quasi 20 gradi, accendo il riscaldamento e lo mando verso i piedi. E dopo un po', quando l'aria ritorna verso di me, sento quel magnifico odorino dei miei calzini che non mi cambio da una settimana. Ah, sono al top. Scusami. Questa mattina volevo andare a Mignotte, allora ho visto su internet, su un sito, ho visto 5-6 ragazze in base alle foto, ho incominciato a chiamare, non ha risposto nessuna, ci ho rinunciato, ma quanto cazzo lavorano queste, stavano tutte occupate. Fuori dagli uffici dell'università ad ascoltare il podcast della Zanzara senza cuffie, passano professori e addetti alla segreteria che mi guardano malissimo, siamo al top. Allora, molti ci accusano di delle peggiori nefandezze, ovviamente Parenzo, in particolare il sottoscritto, anche te, come al solito, sei sotto accusa per essere troppo morbido nei confronti dei rom, degli immigrati. Però mi pare che oggi sotto attacco sono io per una volta spettatore con popcorn e Coca-Cola e hamburger a godermi questo straordinario spettacolo che per una volta io adoro i napoletani e reputo peraltro quel titolo una schifezza. Quindi sono qui a godermi questo straordinario spettacolo per una volta senza essere bersaglio. Ma se sei il primo che sostieni che è vero. Scusami. Che c'è il piagnisteo napoletano, dai. No, io a me fanno un po' sorridere, ma poco, e i neo-borbonici, ma ho il grande rispetto per loro. Io ho detto voglio essere Yoda come quello di Guerre Stellari. Però devo dirti una cosa, molti ci accusano, oltre che di queste cose, di non parlare mai di una cosa molto molto noiosa, che è l'affair Consip. Si può liquidare facilmente. Ecco, bravo. No, riducilo tu, al di là delle questioni giudiziarie, le indagini, eccetera. Cosa la Consip. No, no, ma veramente no, no, ma in una riga vorrei che tu lo riducessi questa cosa, perché l'abbiamo fatta in privato oggi, abbiamo concordato. L'unica domanda da farsi a capire, adesso vediamo la giustizia cosa dirà, chi è, c'è uno Romeo che è in carcere, bravo, sì, con l'accusa di tangenti e quant'altro verso la Consip, che comunque è una centrale di appalti, no? È la centrale pubblica che deve gestire gli appalti. Fine, detto in due parole. L'unica domanda da fare è: ma il signor, il babbo di Renzi, il signor Tiziano Renzi, che è un piccolo, modesto, piccolo imprenditore, insomma, locale, dire. Che c'ha zec, direbbe Di Pietro, che c'ha zec con questi nomi, con Romeo, con cose, Napoli, affari, bande e cose, che c'entra? Cioè, perché entra in questa inchiesta? Sì, c'è un signore, no, perché che entra negli affari, insomma, perché ma parla perché, con queste per persone? Per quale motivo il signor Renzi, che il giovane Renzi, il vecchio Renzi, Tiziano, il padre, entra in questa roba? L'unica domanda, su poi non mi interessa niente, come va a finire la giustizia, cioè, vediamo. Come mai un piccolo imprenditore di provincia si mette a trattare affari importanti, ad appalti importanti con varie con persone? Romeo, il quale vuole avere degli appalti dalla più importante centrale, come fai tu, la centrale, certo, degli appalti, cioè, mi sembra di poter dire, è un po' strano, basta, mi sembra di poter aggiungere che il signor Renzi, in questo caso Matteo Renzi, dovrebbe nei confronti del papà dire una cosa molto semplice: no, amico mio, resta a Rignano e fatteli i cazzi tuoi, invece di impicciarti di cose di cui non ti dovresti impicciare. O magari può essere semplicemente accaduto che il nome di Tiziano Renzi è finito nei brogliacci e nell'inchiesta, semplicemente che qualcuno ha millantato il suo nome, non o lo ha so, millantato, sicuramente, non lo so, sicuramente negli incontri con Romeo e altre persone li ha avuti, non è che, ecco, non li ha se avuti. Se li ha avuti, bisogna capire perché titolo, Romeo perché ha bisogno di Tiziano Renzi, perché vabbè, questa vabbè è una cosa. E con questo chiudiamo. Ma hanno dovuto fare il culo, sbiancamento anale, solite. No, no, sì, che fai così, è una vita, tu, è un... prostitute, no, trans al telefono, Antinori, è così, Antinori è molto arrabbiato, oggi l'ho visto. Lo so, l'hai visto per strada Antinori. Molto arrabbiato. Chiamiamolo. Severino, yeah. Ma è vero che hai incontrato Parenzo oggi a Colla di Renzo? Ma guarda, dico, tu devi andare a fanculo. Ma tu sei un uomo inaffidabile, mi hai detto che andavi sul libro. E aspetta, ma mi hai mandato a fare in culo Feltri. Ma hai detto, a Feltri. Non mi rompere le palle. Aspetta, hai detto che Feltri è un pezzo di. Me l'ha detto anche oggi, sono attaccato alla cinque. Fasullo, sei un fasullo. Cruciale, che ha detto oggi per strada? Arrabbiatissimo era. Che ha detto per strada? Parenzo indicava, continuava a indicare il Vaticano, la cupola del lì, Vaticano. Cioè... eravamo lì in zona, vicino al Vaticano. Prati, sì. Io ero per i fatti miei. Prati, ero per i fatti miei con mio figlio. Dai. E indicava la cupola, continuava a dire: perché lì dentro abbiamo i criminali, criminali, ma Cruciale, criminali, criminali, Cruciale, criminali, là dentro in quella cupola. Dico, ma che c'è? Chi urli? Urlava tutta la gente intorno, c'era. Scena pazzesca. Ti vergognavi come un ladro. Me lo vergognavo. Però ragazzi, sì, io direi che è il caso di chiamare sempre per la questione Napoli, sempre per, sì, per dare un tono, come dire, moderato, sì, a questa trasmissione, sì, sì, sì. Il signor Carlo Alvino, finalmente. Carlo Alvino. Io lo chiamerei ai nostri microfoni, finalmente. Sì, cioè uno dei re delle radio napoletane. Metto per capire che ne pensa della Juventus. Sono una società qualunque oppure una banda di ladroni figli di puttana? Così, tanto per capire un po' che aria tira da quelle parti. Sì. Sentiamo. Chiamate, dai. Fate squillare, vai! Pronto? Carletto? Caro Cruciani! Caro Carletto, come andiamo? È ripartito il vittimismo? Come andiamo? No, è ripartita la voglia di rivendicare un ruolo, di rivendicare una posizione, di rivendicare l'antijuventinità, che è un valore. Ma come è un valore? Si ama il calcio pulito, il calcio onesto, il calcio deciso solo dal campo, si deve dichiarare anti-juventino. No, scusa, però tu in questo modo, caro Carletto, dici sostanzialmente che quelli sono ladri, amico mio. Dico sostanzialmente che, guarda caso, ogni qualvolta un arbitro sbaglia, sbaglia sempre a favore, cioè, della Juventus. Devi, però tu devi avere il coraggio, tu hai avuto la genialità di iniziare una tua trasmissione con una, la canzone di Arsenio Lupin. Io apprezzo queste cose, per carità. Però devi andare un po' sull'ironia, amico mio, così non fomentiamo gli anni. Non fomentiamo. Ma se dici che sono dei ladri commatricolati, uno i ladri li deve arrestare. Io ti dico questo, la storia. Che è maestra di vita, ci dice questo. Il signor Mourinho fece o non fece il gesto delle manette? Allora? Il signor Garcia suonò o non suonò il violino? E l'elenco è lunghissimo, amico mio. Cioè, è dunque, la storia che lo dice, è la storia. Cosa? Una volta, che dice la storia? Che sono ladri? La storia dice che l'Inter schierò una squadra di ragazzini contro la Juventus per protestare contro di loro. E stiamo parlando di 100 anni fa. Tu stai, mio, tu stai parlando di potere, mafia. Addirittura una volta hai detto sì, è vero, un sistema mafioso. Cioè, andrebbero a Torino, andrebbero arrestati tutti, secondo te? Non ho mai detto questo. Io dico solo che è un potere reale, è un potere reale che condiziona palesemente i risultati di calcio. Ma beh, è una cosa gravissima, stai dicendo, una cosa gravissima. Ma quelli di fatti lo dicono, ragazzi, ma perché? Ma no, ma quali fatti, dai, su. Perché protestano tutti quanti contro di loro? Scusa, ma che vantaggio dà, che vantaggio ha questo Valeri, questo arbitro? Che vantaggio avrebbe a fischiare a fuori? Dimmi. Allora, il vantaggio reale di tutti è quello di essere sempre pronti a soccorrere il potente di turno. E guarda caso, ma con che vantaggi? Ma con che vantaggi concreti, reali? Non mi interessa sapere il vantaggio, so solo che è così. Chi è il burattino dietro tutto questo? Chi è il puparo? Il puparo è il burattino, quello che manovra i figli, è quel potere che sta lì da sempre. Potere che è stato sempre. Uno dice il potere, mi sembra in Grillino, il potere. Amico mio, qua si è deciso un campionato, qua non si decide solo una partita, sono 5 anni che Catania-Juventus, ma ve lo ricordate Catania-Juventus? Vabbè, ma questo è puro vittimismo, da sempre vittimismo, sempre a piagni, il piagnisteo, dai. Vuoi sapere il mio motto da napoletano? Qual è? Io voglio passare per vittimista, anzi te lo dico nella mia lingua, perché napoletano, sì, dimmelo, Chiagnazzaro, colui il quale piange sempre, ma non voglio mai passare per questo, perché per questo non passerò mai. Allora farò il vittimista, farò il chiagnazzaro, ma il questo non lo faccio. Scusami, Parenzo, tu rappresenta un potere deviato. Addirittura come i servizi segreti deviati. Un potere deviato. Deve stare sul campo. Sei più forte, e viva Dio, me lo dimostri sul campo. Ma perché ogni qualvolta arriva la difficoltà? Ma scusa, ma il Napoli, il Napoli deve giocare mia, qualcosa. Cosa mi tocca sentire? Che di ti tocca sentire? Sto piagnisteo napoletano, sto piagnisteo. E sono tutti i ladri, e la Juve, i gobbi, e ai Mavà, ragazzi. E noi più urleremo la nostra rabbia. Ma che dice? Un calcio corrotto. Scusami, Alvino, io dico una cosa però. Adesso, Napoli deve giocare con la primavera, secondo te? Togliete Iervino. Al ritorno ci sarà bisogno della protezione civile con questo clima, dell'esercito, come allora, per quanto mi riguarda, sono pronto ad andare io all'aeroporto ad accogliere la Juventus con un tappeto rosso, perché adesso dobbiamo battere sul campo. Ma tu ci andresti a cena con uno della Juventus? E devo morire avvelenato, per l'amor di Dio, fratello caro. Cioè mai a cena con uno della Juve? No, mai a cena. Cioè, ma quelli della Juve sono antropologicamente diversi, secondo te? Ma a cena tu ci vai con un amico, con una persona con la quale puoi scambiare due chiacchiere. Vabbè, ma perché uno della Juve che c'ha la lebbra, scusa, non ho capito. C'è incompatibilità di carattere. Non ho argomenti sui quali discutere. Non ho. Vabbè, ma ragazzi, ma questa è la barbarie, la tribù. Ma scusa, io voglio, sono libero di decidere con chi andare a cena a scambiare due chiacchiere davanti a un bicchiere di. Cioè, secondo te sono antropologicamente diversi questi qua? Secondo me il fatto, soprattutto per quelli che tifano Juve da bambini, insomma. È una spiegazione che non mi so dare, soprattutto per quelli napoletani. Io penso che un napoletano debba tifare Napoli. È una malattia, dici. È una cosa che non, è un sintomo di antisportività. Cioè chi è juventino ha una tara mentale. Ha un qualcosa dentro che ti porta ad essere antisportivo. Allora, il motto vincere non è. È l'unica cosa che conta. Già in questo motto c'è il dispregio delle regole. Ma non è vero. Già questo è un motto di prepotenza, di prevaricazione. Dispregio delle regole. Questo è un motto che non mi appartiene. Vabbè. Perché io vivo di emozioni, vivo di passioni, non sono legato al risultato. A me che il Napoli possa perdere o vincere, non me ne fosse un tubo. Ma scusa, per esempio, Mughini, come lo giudichi, signor Mughini? Non lo conosco, non mi permetto di giudicare le persone che non conosco. Vabbè, ma quando parla, eccetera, lo ascolti oppure dice tutte cazzate? No, non lo posso ascoltare. Cioè, lui è un catanese, un uomo del sud che rinnega il sud, è uno che rinnega le proprie tradizioni e le proprie radici. Per me non ci può ascoltare. Ma anche lui ha il soldo degli agnelli. Al soldo degli agnelli, pure lui. Problemi suoi, non lo so, i suoi libri che glieli pubblico, qualche casa edificio riconducibile alla famiglia agnelli. Non mi sembra, non lo so, non credo. Non lo so. Certo. certo, se poi dobbiamo ricondurre tutto al fatto che dinanzi ai soldi sono tutti pronti a mettersi a 90 gradi. Cioè, tu dici che di fronte ai soldi molte persone si mettono a 90, di fronte al potere della Juventus tutti a 90 gradi, dici? Ma ragazzi, ma dimmi, oggi da 50, 100 anni a questa parte, la famiglia più potente d'Italia. Vabbè, ma non è più così, dai. Ma quale cognome porta? Vabbè, ma non è più così, dai, è tutto non al è più così. Non lo so, e forse noi al sud, cioè, non siamo ragazzi miei, su questo, evidentemente. Carletto, un po'... ti do un abbraccio, va. Ciao. Levate il b***o. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Tata, facciamo l'amore, eh? Sì, certo, tesoro. Dai, allora spogliati che incomincio a toccarti. Ma no, lo sai che come preliminari mi piace di più ascoltare La Zanzara. Cruciani, sono le 1:44 di notte, stiamo rientrando in casa io e la mia ragazza. E la mia ragazza sulla soglia della porta canta questo. Li avete visti sulle rive del fiume. Siamo al top. Stai zitto, ciucciacazzi. Un po' la mignotta ti piace farla? Tantissimo mi piace, ma io sono troia, sono una troia pazzesca per eccellenza. Beh, però una adesso troia questo... pazzesca. Vabbè, questo però... Sessualmente. È una questione sua, signora, adesso... Nata per il sesso, io sono... Vabbè, ho capito, ma che ci frega, no? C'ho due chiappe, amore mio. Allora, io direi di andare a Novara da Francesco, vai Francesco, vai. Signor Cruciani, dimmi. Le dico signor Cruciani, sai perché? Perché sono in campagna. Sì, però fammi sentire bene, amico. Allora mi sente? Sì, ti sento. Io dico, sono un campano educato e non cado nella provocazione, ma ho un vocabolario di parolacce che la sommergerei. Sai cosa non mi piace? Non mi lascio sommergere dalle parolacce, non ti preoccupare. No, non lo farei mai. Non lo ma non mi interessa, perché... non mi interessa no, come no, argomento. Capito, io ho la sostanza. Lei quando ha accennato all'antinapoletanità, al vittimismo, il fatto che a Napoli sì. Sono i marioncelli, ma lei a me ha attaccato le aziende del nord, le banche del nord che sì. Hanno ammazzato, quelli fottono miliardi, i grossi imprenditori condannati per reati esecrabili, quelli sì. Sono i marioli, non i quattro marioli lì che pure sì. Fanno schifo, ma che sono fottuti un po' in, al massimo 700.000 euro, contro i miliardi che fottono al nord. Voi sì. Avete la puzza al naso, lei si deve, quando parla delle dinamiche, si sì. Deve sciacquare la bocca. Sì, questa è poi nuova come cosa, non l'ho mai sentita come cosa. Deve sciacquare la bocca. Non l'ho mai sentita come cosa, sciacquati la bocca quando parla di Napoli. Allora, se lasciamo, ma le dico, con l'acido ma è una cosa nuova che non ho mai sentito, una cosa originale. Ma con l'acido muriatico, sai perché? Fa più bene. Aspetta, sì, con l'acido muriatico, però no, avvicinati più la... Intanto, invece dell'acido muriatico, avvicini la bocca al microfono, se no non capisco. E poi le dico un'altra cosa. Togli il viva voce, se no non capisco. Togli l'auricolare, mettiti in una posizione migliore, se no non capisco, altro che acido muriatico. Adesso mi sente? Sì, adesso più o meno ti sento, vai. Ok, allora, poi l'altra cosa, la concludo, lei resta sulle tue opinioni. Non sento, imbecille, allora. Non sento, dai, forza. Sento adesso? Sì, sento, dai, forza. Ecco. Allora, le dico, poi a proposito di Marioncelli, un giorno mi risponderà se è peggio Marioncelli di Napoli. Di? I Marioncelli di Napoli. Parla italiano, non capisco, che vuol dire Marioncelli? Ma i Marioli. Gliela dirò. Ma chi se ne frega se la dice o no? Ma chi la vuole? Ma chi se ne frega? Ma lei le vuole le parolacce? Sì, bene. La sommergerei, ma sì. Non cado nella ma non mi interessa di essere sommerso, capito? Lei, di essere ripeto, sommerso dalle sue parole. Quando parla di Napoli si deve sciacquare la bocca. Con l'acido muriatico, aggiungiamo, ancora. Con l'acido si muriatico. Si deve vergognare profondamente. Ancora. Mi devo vergognare, bene, mi vergognerò. Ma che meraviglia Padre di puntata nostro che di sei ma nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ma si lasci capire perché non capisco. Parli meglio. Faccia funzionare i suoi telefoni, va lì dia come notta cruciale stasera. Funziona bene. è lei che sta facendo con quello che la voleva ammazzare e non ha, fa finta di non sentire. Le sto dicendo una cosa, la provocazione viene dal fatto che lei i ladri grossi non li attacca. Ma no, io ho parlato del Piagnisteo. Vuoi parlare del Piagnisteo o vuoi parlare di un'altra cosa? Del Piagnisteo, stai piangendo. Diciamo anche qui hai dimostrato che stai piangendo. Quelli del nord sono peggio. E noi se piangi, stai piangendo. Piagnone, stai piangendo. Quelli del nord sono più ladri. Oh, piangi ancora. È la dimostrazione che stai piangendo. Stai ancora piangendo. Stai facendo ancora il Piagnisteo, la solita cosa del nord, che rubano di più, non attacchi mai quelli del nord. Mi portate un goccio di prosecco per quel disegno di popcorn? Mamma mia, come ti dovresti vergognare, tu ti dovresti... Ha paura, perciò non fa parlare. Vai, attacca col Piagnisteo, vai col Piagnisteo. Teme, ma chi te teme, ma chi sei? Le dico un'altra cosa, parlando di calcio, io dico che la Juve è superiore, ma non ha bisogno di quello che fa, le spiego un'altra cosa. Bene, ma come ottimo. Mai una squadra che vince 35 scudetti vince mezza Coppa Campioni? Eccolo qua, e piangi ancora. Andiamo col Piagnisteo, vai! Non piango. Noi non abbiamo avuto condannati. Eccolo qua. Non ne abbiamo mai avuto, col Piagnisteo. Eccolo. Come lotta Cruciani, come lotta questa sera solo contro tutti. Come lotta come un leone, amico mio. È abuso del fatto che lei c'ha il microfono in mano e lo gestisce questo è il mio lavoro, fa questo per cui mi portate un po' di educata, per cortesia un po' di prosecco ghiacciato bello fresco, grazie. Francesco, un attimo solo, un attimo, aspetti un attimo, ho sbagliato pulsante, scusami, aspetti. Ha fatto i gargarismi? No, Beh, senti come lottano. Allora? Come sentito? Si offendono, come i bei tempi. Mi dica. Hai sentito o no? Guardi, le dico solo una cosa. Io l'affronterei viso a viso, sai perché? Perché non la temo. E non temo la sua dialettica. L'unica cosa, non cado nelle provocazioni. Non le dirò mai ciao, una amico parolaccia. Mio. Ciao, non gliela dirò mai. Ma ho degli argomenti da farla impallidire. Guarda, ne ho sentiti alcuni stasera. Ma sai che mi sento un po'... Ne ho sentiti alcuni stasera che rabbrividisco, guardi. Alcuni stasera mi mettono paura. Brrr, ciao. Lo so che ti senti bene stasera. Mi dispiace anche un po' perché non mi sento. Allora adesso però dobbiamo affrontare un argomento serio. Non cominciare a prendere in giro questa persona a modo tuo. Meno male, perché è un argomento serissimo. Con il direttore Roberto Napoletano. Presentiamo il domenicale, l'inserto domenicale. Davide, di cultura. Devi stare tranquillo. Allora, no. è una persona, è un napoletano. Io approvo tutto quello che ha fatto e il fatto che lui dice meglio vendere il corpo che svendere il cervello. Trattasi di Francesco Maggiacapra, ex avvocato, ora gigolò, anche omosessuale, bisessuale, credo. Esce in libreria con un volume assolutamente da compulsare, che si chiama Il numero uno, Confessioni di un marchettaro. Iacobelli editore. Francesco, bonsoir, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera, come stai? Io sto un amore, anche se mi avete fatto un attimino ammosciare con tutte queste urla, per cui ho perso la concentrazione, quella concentrazione psicologica necessaria per la mia attività. Ma come ammosciare dovrebbe essere il contrario? Come fai? Se tu ammosci è finita. Se tu ti ammosci le urla dovrebbero saltarti, la battaglia dovrebbe saltarti. No, invece no. È un lavoro di mente, quindi perde la concentrazione, più cioè relax, adesso comunque l'erezione da noi non ce la devi avere, amico mio, non ce la devi avere. Chi se ne frega? Allora, io vorrei capire da te, caro Francesco, quando è che hai finito di fare l'avvocato e hai iniziato a fare le marchette? Ecco. Cioè hai iniziato a fare il gigolò sostanzialmente? C'è stato un momento preciso oppure è stato come dire un passaggio lungo? Quando sei passato da essere il principe del foro in tribunale a il principe del foro in altero loco? Bella questa cosa qua, è nuova. Prego. Soprattutto originale. No, è così. Vai, originalissima. Ho appena finito di sbellicarmi dalle risate. Comunque in realtà il passaggio è stato repentino e inaspettato. Un giorno un avvocato mi contattò per offrirmi del sesso a pagamento, quindi mi chiese una prestazione sessuale a pagamento. Cioè un avvocato, un tuo collega, diciamo. Era una persona che mi conosceva, sì. Un po' per gioco, un po' per pesare la mia autostima, anche se poi ho capito successivamente che la mia autostima, sì, non doveva e non deve dipendere, sì, dal valore che mi attribuiscono le persone, ma piuttosto dal valore che io stesso riesco, sì, ad attribuirmi. Vabbè, discorso mi lungo. Offrì questa prestazione a pagamento, sì, e accettai per gioco. Da lì capì che evidentemente in 20 minuti, sì, potevo guadagnare esattamente quanto guadagnavo in un mese da praticante avvocato. Quanto guadagni oggi? Oggi guadagno più di un avvocato. Cioè, e, più o meno, più o meno. Ma vedi, la questione non è quanto guadagno, ma è che il denaro che guadagno, a prescindere da quello che posso, sì, quantificare adesso, che non avrebbe in realtà molto senso. Vabbè, non lo vuoi dire perché hai paura del fisco, dai, hai paura del fisco. Vabbè, ma lo puoi dire anche. Il messaggio che deve passare è che non è un denaro facile. In che senso? Il denaro casomai veloce, ma se fosse facile lo farebbero tutti. Ecco, ma qual è la, cioè, la, perché è difficile, dice? È difficile mentalmente, è difficile fisicamente, è difficile, beh, perché è impegnativo, è difficile perché a un certo punto uno deve usare le pilloline, perché è difficile? Spiegami. No, io pilloline non ne uso perché preferisco non compromettere, ho paura dei, in generale, dei farmaci, di compromettere il mio corpo così come la mia salute, per cui la soglia di attenzione alla salute, cioè, è niente Viagra, niente Cialis, niente cose, niente, in alcun modo no, è tutto un lavoro di testa. Per questo io dico sempre che ho preferito vendere il corpo piuttosto che svendere il cervello, nel senso che utilizzo oggi il cervello, la testa, molto di più di quanto non potessi fare facendo ma perché è difficile, perché di dici difficile tu? È difficile perché non è facile fare del sesso a, beh, non c'è comando, dubbio, certo, in un momento in cui magari non hai voglia. Ecco, come fai ad eccitarti? Come fai ad eccitarti quando, che ne so, ti arriva di fronte una persona che non ti piace, oppure riesci a scegliere, che ne so, ti arriva uno ciccione, grosso, che magari non ti piace fisicamente, magari invece ti attraggono queste persone. Uno No, certamente non mi attraggono tutti i tipi di persone con cui posso andare a pagamento. La questione è che faccio nello stesso modo in cui magari tu devi affrontare un ospite che non ti piace, o uno scaricatore di porto deve, certo, alzarsi alle 5 di mattina per andare a lavorare. Ogni lavoro, beh, è un po' diverso, i pro e i contro. Cioè, come fai ad eccitarti in quel caso? Beh, è un lavoro di mente, ti di ripeto, mente, non è semplice, se fosse semplice lo farebbero tutti. Quindi è anche un lavoro intellettuale alla fine, cioè di beh, uso dell'intelletto. È un lavoro dove viene utilizzato il cervello, non è, certo, propriamente una prestazione, sì, intellettuale. No, ma rispetto non... alle prestazioni intellettuali non ha una dignità inferiore, o io non reputo che abbia una dignità inferiore. No, ma io sono d'accordo con te, Parenzo no, però io sono d'accordo sul fatto che... Problemi suoi, no, anche no, perché le persone come Parenzo sono le prime poi segretamente... usufruire di quello che pubblicamente denigrano e condannano. Io sono abbastanza... Beh, tu pensi, magari lui no. Tu pensi che fare, no, gigolo sia una cosa da abietta? No, Davide, io tu sono pensi dichiaratamente che... eterosessuale. Allora, che c'entra questo? E penso che ma quel... anche molti miei clienti sono dichiaratamente, no, eterosessuali. No, e penso che il lavoro dello gigolo sia un lavoro, visto che lui lo fa, come dire, liberamente, un lavoro come un altro. No, non pensi quello che sia un lavoro come un altro, non essere ipocrita, dai, hai sempre pensato beh, le peggio non cose. Non augurerei a nessuno dei miei figli di intraprendere una professione simile. I tuoi genitori come l'hanno presa? Ecco, questo sicuramente. Ma i miei genitori sono persone intelligenti, per cui mi hanno sempre insegnato che la mia libertà, il mio diritto di scelta viene prima rispetto all'opinione delle persone. Certo. E se dovessi in alcun modo sottomettermi all'opinione, anche allo stigma... Vabbè, ma avrà detto qualcosa tua madre, che ne so, cioè ti avrà detto qualcosa, Francesco? Beh, ti ripeto, i miei genitori mi hanno insegnato che la mia libertà è prioritaria. Se, quanti anni se hai tu? Giorno sottomettermi allo stigma altrui mi troverei di fronte al mio padrone o a chi tenta di essere. Quanti anni hai tu? Ho una trentina d'anni. Una trentina d'anni, e dunque i tuoi genitori sono giovani, ne avranno 55-60 al massimo, ma immagino. Più no? o meno, sì. Più sì, o meno, ma, vabbè. Ma a prescindere dall'età io credo che sia una questione Senti, culturale. Ma è vero che ci sono molti, cioè sì, hai fatto sesso anche in tribunale? Beh, ho dichiarato che effettivamente in tribunale ci sono anche situazioni, per così dire, trasgressive. Ma anche magistrati? Ho frequentato i tribunali e ho visto cose che voi umani sono molto molto oltre quelle che magari vedo ogni cioè, giorno. Cioè al tribunale di Napoli si fa sesso dentro il tribunale di Napoli? Dentro. Ma nel tribunale di Napoli ho assistito a delle scene che non sono propriamente da tribunale. Insomma, puoi dire tranquillamente, ho visto delle persone ma fare dove, sesso nei bagni, dove? Non lo so, in qualche stanza, in qualche... Beh, le cose non si fanno solo nei bagni. Ma sesso a pagamento? L'hai fatto anche tu? Ma diciamo che a volte il pagamento non è spesso la moneta, non è il denaro, ma magari è l'attribuzione di qualche altro favore, di qualche informazioni, di qualche cosa magari a volte anche più raro del denaro, più difficile da reperire. Informazioni, atti che possono sparire, cose di questo tipo. Così. L'hai detto. No, ma tu l'hai detto. Beh, tu l'hai detto. Informazioni o sparizione di atti, questo leggo da qualche parte nell'intervista che hai fatto. In qualche modo sono situazioni che non sarebbero nuove, né sarei io il primo a dichiarare questa cosa, per cui ma tu sei attivo o passivo? Ma io credo che chi si venda per denaro badi poco al ruolo, si vende una prestazione, si vende dunque una c'è qualcuno che ti chiede di essere passivo? Ogni tanto. Ma in realtà chi si rivolge a un gigolò preferisce sempre avere il ruolo della donna. Tu sei, come ti definisci? Bisessuale, pansessuale, vai io con tu? Io mi definisco metrosessuale, nel senso che ormai ho perso proprio l'idea dei miei gusti ma sessuali. Ogni tanto con le donne ci vai? Ti chiedono di fare certo, sesso? Sì, in realtà chiaramente il pubblico maschile è più ampio, che più paga, però sì. Mi capitano donne, mi capitano coppie, è capitato anche qualche persona transessuale. Ma tu, uno come te può essere fidanzato? Io lo sono stato e credo che l'amore, così come i sentimenti, appartengano ad una sfera privata. Per no, cui, d'accordo, sì. Però una fidanzata, posso portare adesso uno che fa una vita di questo tipo? È complicato, dai, diciamo la verità. È complicatissimo, ma una persona intelligente, una persona che sposta la propria scala di valori, non sul punto di vista fisico, ma su quello mentale, morale, psicologico, può trovare in me una persona molto più onesta e molto più affidabile del padre di famiglia che bello. Di giorno vuol dire, è chiaro che tu questa cosa qua la interpreti veramente come una professione, cioè certo, come una certo. Professione. Ti sei mai, come dire, appassionato a qualche cliente? Da quant'è che fai innanzitutto questo mestiere? Ma io lo faccio da qualche anno. Sì, la reputo un'attività vera e propria perché no, ma ti sei messo a qualche volta ti sei appassionato a qualche cliente? Non dico innamorato, ma insomma qualcuno si sarà sicuramente innamorato di te. Quali sono le tue misure per curiosità? Le persone si innamorano con la stessa facilità con cui si disinnamorano. Sì, in realtà quando lavoro per me è solo lavoro, anzi è importante capire che io non sono la persona che si prostituisce, professionista, e la persona che si prostituisce non sono io, quindi è importante per una specie me di macchina sei così, una specie di macchina. Professionista, ma come qualunque persona che una macchina. Il proprio lavoro con serietà, e io lo faccio perché è l'unico lavoro che in vita mia mi ha garantito un'indipendenza economica. Ecco, ma i preti, affrontiamo il discorso dei preti, quanti sono i preti? Sì. Ma i preti sono stati tanti, da quando ho denunciato Don Luca Morini, che attualmente è indagato dalla Procura della Repubblica, ovviamente sono diminuiti perché la mia fama è stata inversamente proporzionale alle chiamate da parte dei prelati. Cioè, per cui quanti ancora sono, ce n'è. Ancora qualcuno c'è in tutto, quanti saranno stati? Una cinquantina di preti con cui ha avuto rapporti? In realtà non ho modo di poterli contare tutti, perché magari alcuni non si sono, altri non che si mi sono sfuggiti. Comunque sono state decine di preti. Quindi, decine di preti. Ma d'altronde si sa che la percentuale di preti omosessuali è molto più alta rispetto alla percentuale di omosessuali dalle persone laiche. Sì, può essere, sì, può essere, ma sicuramente. Sì. Pure disabili addirittura, cioè una specie di... Disabili, certamente, ma io tra l'altro... Cioè, ma qua al giorno, quanto riesci a fare di prestazioni al giorno? Ma... Più diciamo o meno. Chi si prostituisce non dismette mai il proprio lavoro, per cui sei riuscito a fare, che ne so, un escort 24 ore su 24. Quanto è una media al mese? Quanto hai fatto al mese di media? Ma non credo che il guadagno... No, il guadagno di soldi, sto dicendo i soldi, le persone, il numero di persone al mese. Ma possono essere poche come possono Vabbè, essere tante. Ma questo ho capito, questo si è capito, che è poco o tante. Senti, dimmi un po' le tue misure, se sono effettivamente d'accordo oppure non contano le misure. Non credo che sia... Siamo sopra i 20 o sotto i 20? Non credo che ci sia bisogno di quantificare. Ti posso dire che la misura di materia grigia in me è abbastanza... grande. La materia grigia è superiore alla materia delle parti basse. Vabbè, caro avvocato Gigolò, come sei stato soprannominato, ma in realtà solo Gigolò ormai. Ti do un abbraccio, mi raccomando, avanti tutta. Il gigolò, ragazzi, è un mestiere come un altro. Non rompete i coglioni col moralismo, eccetera. Parenzo, muto, mi raccomando. No, per carità, io vi saluto e vi ringrazio. Ciao. E ci vi do appuntamento a domani sera dalle 18:30 in poi. Ciao, ragazzi. Nasci con la nerchie.